presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Cari amici della notte, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Quando eravamo futuro. Siete pronti? Siete caldi? Sta per iniziare una puntata bollente. Con me, caro Sant'Agostino. Scusate. Mamma mia, c'è proprio il climax sensuale, erotico proprio. Potremmo fare pure una scureggia a questo punto, insomma. Ciao a tutti. Davide Gatti. A questa nuova stagione, ricordiamo, stagione giusto, nuova. Nuova stagione, hai ragione. Si parte bollenti questa volta. Davide Gatti. Che è silenziato, ovviamente non se ne rende conto. Buonasera. Ma che bell'inizio, che bell'inizio, ragazzi, veramente avete distrutto. Sì, siamo ancora, esatto, avete fatto un bel lavoro iniziale a sorpresa che anche noi non sapevamo. Naturalmente. E detto bello, e noi subito da cazzoni abbiamo subito fatto il vostro cazzino. Vabbè, rovinato tutto. Vabbè, succede, lo fanno, insomma, non è che... Ci sono, vedete, ci sono i professionisti e ci sono i cazzoni, niente così. Roberto Tomaiuolo. Cazzoni nomen omen, immagino, stasera. Comunque buonasera a tutti. Esatto, bisogna fare attenzione anche a quello che diciamo, perché stasera siamo sul filo del rasoio. Allora, poi la cosa... Allora, in chat vediamo se c'è qualcuno. Tanto per salutare c'è Francesco, connesso puntualissimo, esatto, puntale nel rimo, anzi. Bene, ragazzi, questa è questa puntata inizia con una storia. È la storia di un ragazzetto che si avvicina timidamente, con calma, verso l'edicola. Si guarda un po' intorno, circospetto. L'edicolante lo ha già beccato, lo sta spizzando. Se lo guarda, lui si avvicina, sempre un po' con un atteggiamento timido. Gli dice: sai, nonna mi ha chiesto famiglia cristiana. L'edicolante, che è un uomo di vita, è un uomo che ne ha viste tante, conosce i codici, prende famiglia cristiana e prima di porgerlo al ragazzo gli dice: che te ce metto dentro? E non era il prosciutto. L'edicola no. E questo è un meccanismo che tra leggenda metropolitana e realtà è andato avanti per tantissimo tempo, in un'epoca in molto diversa, molto molto diversa, sì, rispetto molto a quello, e forse in questo caso veramente difficile anche da allora intanto scusate, levo questa musica sensuale che insomma se no ci confonde, faccio casino poi con la regia. Ma ci sta a schiacciare, c'è la classica musica da sì, in effetti bastava un non folk, come si chiama, non vabbè, sì, insomma, capito, no? Quelle musiche West, proprio da no, West, no, si può, sì, no? Quella americana, sì, quella un po' musica un po' niggas, no, capito, che tu che poi era la base, il background country, di un po' country, così un po' da tutti quanti i film insomma hard. Allora, questa è una puntata che potrebbe non andrà col tag explicit, perché in realtà noi non parleremo, cioè nel senso non entreremo nel merito delle cose, non andremo a linguaggi particolari o cose del genere, ma racconteremo appunto, come stavamo dicendo, di un mondo, di un fenomeno che praticamente è molto molto diverso da quello che possiamo conoscere oggi, anzi proprio non soltanto come fenomeno economico, ma anche come fenomeno di costume, perché Poi dopo lo vedremo, insomma, la pornografia in Italia in qualche maniera ha anche aiutato la società in qualche maniera a cambiare, ma poi ci arriviamo un attimo a questo. Però prima di addentrarci, insomma, in quello che è questo racconto, per capire che cos'era il porno negli anni 70, come si usufruiva del porno negli anni 70, anche negli anni 80 chiaramente, io non posso assolutamente esimermi dal partire subito col botto chiedendo ai miei esimi colleghi qual è stata la prima, il primo amore che non si scorda mai. Il primo porno che non si scorda mai. Partiamo da Davide, perché ce n'ha una bella, dai. Vabbè, allora, sicuramente il primo incontro ravvicinato con qualcosa di quel genere ho giocato abbastanza facile a casa mia, perché c'era mio padre che non si sa bene, era un'abitudine abbastanza, credo, normale in quel periodo acquistare, come dicevi, il giornale farcito, come qualcuno ha detto in chat. Non era tanto una cosa dei ragazzini, era anche degli adulti. Beh, sì, quando sì, andavano sì. lì, compravano il giornale, poi prendevano le altre cose, gliele ficcavano dentro, così usciva che non si vedeva che cosa avesse preso, ma era giusto per mascherare un po' la cosa. Esatto, però si vede che era un'abitudine abbastanza, perché anche a casa dei miei amici, insomma, chi nascosto nell'armadio, chi imboscato di qui, chi imboscato di là, il padre, insomma, c'aveva sempre del materiale di quel genere. Il mio padre lo teneva semplicemente nel comodino, e mi è capitato un giorno di andare a rovistare nel suo comodino, ovviamente, e scoprire queste riviste, che erano le solite che c'erano in quei periodi, e per cui io non mi ricordo quanti anni avevo, ma secondo me ero piccolino, cioè 14 anni, 13-14 anni, e ne ho avuto un incontro ravvicinato con quello che era la parte, diciamo, statica della pornografia, no? Che le riviste, insomma. Beh, che era una parte preponderante all'epoca. Sì, insomma. Sì. Che comunque c'erano anche i fumetti, che era magari una roba che circolavano parecchio, però le riviste erano preponderanti, ma non alla mia portata per l'età che avevo. Sempre però per avere il primo incontro vero, cioè quello dove abbiamo visto il motion picture. Il cosiddetto motion picture. Esatto, non motion. Vai, stasera non proprio... era tanto motion. Esatto. E un giorno eravamo andati in Fiera di Sinigaglia, che per noi è come per voi Porta Portese, all'incirca, è una fiera che c'è qua, c'era, non so se c'è ancora, a Milano, dove si vedeva un po' di tutto, e un po' così, noi eravamo dei ragazzini che siamo andati lì, andavo lì a vedere la roba elettronica, il circuito, cose nerd. Si avvicina questo tizio un po'... Vuoi qualcosa? Cioè, quella roba, tutto sotto, non si capiva cosa dicesse, no? E alla fine ci fa vedere delle scatolette. Questo qua è il porno, Super 8, lo vuoi? Tutto sotto banco, queste cose, una roba, però, spaventati. Cosa vuole questo? Insomma, alla fine abbiamo capito che cosa voleva venderci. Ci siamo guardati, sì, dacci. L'abbiamo preso e siamo andati subito a casa a vederlo. Io adesso non mi ricordo quanto dura una bobinettina di quelle piccole Super 8, dura 5 minuti, 3 minuti, quanto durerà? Sì, penso dai 3 ai 5 minuti, sì, penso. Allora ce lo siamo guardati, abbiamo visto per la prima volta delle cose che non avevo mai neanche immaginato, e ricordo che appunto in quell'epoca, insomma, che avevamo sta roba sotto mano incredibile, e come ce la giriamo? No, la tiri tu, poi non me la dai più, poi te la fai portare via. Insomma, allora l'abbiamo tagliato in tre, abbiamo fatto tre spezzoni di circa un minuto a testa, e ognuno si è preso un minuto di quello che c'era. Pensa, se uno gli capitava solo l'inizio, non valeva la pena. No, poi al limite poi ce lo siamo scambiati. Comunque, diciamo che in generale quel film ci sono pochi momenti, soprattutto in un film da tre minuti, ci mettono tanto, stanno lì tanto a chiacchierare. Era diretto, infatti, penso che erano proprio gli highlights, insomma, diciamo. Esatto, e allora ce lo siamo affettati, e poi ognuno si vedeva il suo pezzettino. Ricordo che quello fu il nostro video per parecchio tempo. Poi dopo tutto cambiò poco più avanti, come vedremo. Roberto? Allora, devo dividere alcuni periodi, faccio una veloce carrellata. No, la prima, poi dopo ci arriviamo a tutto il resto. La prima è... comunque tutti uniti da una cosa che oggi chiamerei sfiga totale, perché cioè, comunque i primissimi molto prima di Davide, quindi non ti so dire esattamente, ma avevo avuto 6-7 anni. Ti ricordi che noi giocavamo insieme in un grosso condominio a Milano, quindi insomma, e in qualche modo ogni tanto apparivano dei pezzi di riviste molto molto hard, non quelli di cui parleremo dopo, sai, e io ad oggi non oso pensare da dove provenissero, immagino dalla spazzatura addirittura, è molto probabile, però sì. È una cosa che cioè, all'epoca per noi era una cosa incredibile, cioè, le nascondevamo queste cose, ma insomma adesso mi fa un po' ribrezzo anche solo, e queste sono le primissime cose da ragazzino, ovviamente a quell'età non si capiva poi tantissimo, era più curiosità che cose. Poi crescendo, e lo vedremo magari più avanti, rimanendo sfigati nel modo in cui vedremo, però perlomeno si capiva un po' meglio l'argomento. Sì, il motion picture cambia tutto, e quando vedi le cose fisse che non sai niente, non capisci come funziona, poi quando vedi le immagini di movimento dici: ah, ma funziona così, ah, non pensavo, adesso ho capito come funziona. Beh, certo, la differenza tra lo still e il motion picture sta proprio nel fatto che con la still sembrava che dovevi semplicemente appoggiare, diciamo. Esatto. Vabbè, cerchiamo di rimanere negli argini, scusa Roberto. No, quindi la solo la prima di cui ho ricordo, parliamo a livello non fisico, quindi non a livello cartaceo, videotto e così, è stata questa, perché nel mio cortile si giocava anche, come vi ho raccontato, in un'altra cosa, al dottore, questo molto molto prima. Quindi da un certo punto di vista noi, però chiaramente era molto diverso, insomma, le ore, un pezzo di le ore da sì, l'amichetta di 5 anni che si alza la gonna, voglio dire, è una cosa lievemente, diciamo di sì, insomma, diciamo di sì, sono due cose naturali e allo stesso tempo ma molto diverse fra loro. Carlo. Beh, io allora innanzitutto io ho un ricordo molto precoce che però in realtà non è porno, ma nella mia testa lo è, nel senso, si tratta di un film normale in televisione, nella TV in bianco e nero, oltretutto. Era un ricordo così netto di questo evento che me lo ricordo proprio perfettamente, perché mi deve essere rimasto proprio impresso in una maniera incredibile, indelebile per l'epoca. Avrò avuto 8 anni, dai, più o meno, sì, sarà stata più o meno quell'età. E avevo la televisione in bianco e nero in cameretta, e c'era mio cugino che ogni tanto, perché mia mamma ha 7 sorelle, quindi ogni tanto i cugini venivano a trovarci, e più grande di me, e c'era un film western alla TV ed eravamo in cameretta, e mio cugino mi fa: ah, io questo film l'ho visto, fra poco si vedono le tette di quella lì. E io: no, ma cosa stai dicendo? È impossibile. Beh, io proprio non avevo mai visto una donna nuda in televisione in tutta la mia, cioè a 8 anni, fai conto, proprio per me era zero. E mi fa: sì, adesso guarda la prossima scena, questo qua fa così con la frusta e gli tira via il corpetto e si vedono le tette. Io: no. A un certo punto si vede la scena, fa così, fa ucci, tira via e si vede questa, puff, appaiono le tette. Io: oddio, non capo! Tette. Sono rimasto sconvolto praticamente. Praticamente proprio folgorato da questa immagine da donna che gli partiva via il corpetto e si vedevano le tette. E questa ce l'ho fissa nella memoria, proprio come una roba, come dire: oddio, ho visto una donna dura. A molti è successo la famosa scena di Lady Oscar quando Andrei strappa le camicie, insomma, quindi, ma quelli erano cartoni animati, però lì era un film, cioè, vabbè, comunque questa era indelebile. Poi invece in realtà l'incontro proprio invece con il porno cartaceo è avvenuto anche lì abbastanza presto, perché mio papà aveva mio papà era metalmeccanico, aveva un'azienda di operai di metalmeccanica, quindi di saldatori, eccetera, e l'azienda era dietro casa mia, e io spesso il sabato e la domenica andavo a giocare nell'azienda che era chiusa, entravo rischiando la vita con mio fratello perché giocavamo con le gru, con i carrelli, gli elevatori, c'è cioè tutte quelle cose lì, no? Però tutte robe pericolosissime, però vabbè, sono anni passati. E c'erano gli armadietti degli spogliatoi dove c'erano le docce. E dentro gli armadietti, cosa avevano gli operai dentro gli armadietti, secondo voi? Gli armadietti delle docce erano pieni di riviste porno dell'epoca. E infatti all'epoca aprivo queste cose, vedevo poi anche tanti fumetti, no? Come diceva prima, negli anni 70 ne giravano tantissimi, il famosissimo Lando Trepalle, altri fumetti che poi magari citeremo, e io iniziavo a sfogliare senza neanche capire cosa fossero, guardavo queste cose. Tutte queste forme, tutte queste robe strane che non capivo bene. Vabbè, si trattava proprio dei primi incontri di avvenuti nella nostra vita, quindi non è che capivi esattamente. Esatto. Come ha detto bene Davide, poi quando hai il primo incontro invece col film, che per me è stato una VHS a casa di un mio amico che faceva la festa di compleanno, ma abbastanza tardi perché ero già alle superiori, mi ricordo quando è successa la prima volta che ho visto una videocassetta di quelle lì, insomma, di quelle 8. Di quella roba lì. Esatto, ero a casa. Quale roba? Io non capisco. Era la festa di compleanno di Andrea Gaeta, non so se ci ascolta, ciao Andrea, non so se ce l'abbiamo negli ascoltatori, ma Andrea Gaeta è in realtà, lui era il mio compagno di banco del liceo ed è il cugino di Nicola Fasani di Elio le Storie Tese, Faso, il quale Faso era sempre presente alle sue feste di compleanno, quando non era famoso all'epoca, e lui da... E come sapete gli Eli sono famosi anche per la cultura del porno, perché loro l'hanno sempre portata e infatti lui diceva cose che io non capivo all'epoca, perché diceva faceva battute su Golden Shower, rasierte, e per me erano parole sconosciute che non avevano significato, poi sentivo ridere. Poi a un certo punto Andrea mi fa: "Oh, la cassetta porno, vediamo e io: "Cosa? Chi? Cosa? Dove?" E ha messo dentro sta cassetta, perché c'era, lui continuava a dire Golden Shower, ridevano Golden Shower, io non sapevo cosa fosse questa Golden Shower. Dopo l'ho scoperto cosa questa cosa. Che cos'è? Che vabbè, cos'è? Che hanno messo sulla scena della Golden Shower, insomma, e c'era, mi ricordo c'era Cicciolina in quella scena. Beh, sì, è stata la maestra, insomma, da quel punto di vista. Il pitone. Insomma, poi quella è stata la primissima volta che ho visto la cosa. Si è partito pesante comunque. è successo così, non è? Cioè, che perché abbiamo visto sarà stati spezzoni degli anni 70, forse. Sì, però, considera che tu sei più esperto. Esatto. Io, a parte che sono più giovane, poi sono anche partito molto più tardi. Ho scoperto che molti miei amici hanno visto robe molto prima di me. Io invece vivevo in questo mondo sconosciuto, e a un certo punto mi è arrivato tutto pataprom così di botto. Ho detto, per me era stato un infarto vedere una mezza donna nuda in bianco e nero sul televisore di casa. Vabbè, ma era anche normale, nel senso che per i giovani cioè magari per i ragazzini degli anni 70, insomma, che diciamo c'era meno impatto, no, rispetto ad oggi, che comunque c'è anche una sovraesposizione da un certo punto di vista. E invece guarda, io devo dire la verità, allora io avevo tanti amici a scuola con i genitori che avevano le riviste dentro casa. Ora a me questa cosa mi faceva un po' strano, perché mi sembrava strano che i genitori ci avessero, non è che i genitori dicevano al figlio: "Ah, guarda le riviste", stavano, però insomma diciamo che le nascondevano fino a un certo punto, insomma, e mi faceva veramente un po' strano, perché dico vabbè, ma una coppia sposata che insomma si guardano le riviste, boh, no? Mi sembrava una cosa un po', capito, strana, perché io ero un po' più, ero molto diverso rispetto a come mi conoscete, ero veramente un po' principino, un po' bacchettone sì, era un po' così. E questo, insomma, una volta dice a casa sua: "Dice, dai, ti faccio vedere le riviste di mio padre, no?" Siamo queste riviste, io insomma con queste fotografie già stavo, ero tutto stordito praticamente da sta cosa. Poi è arrivato il padre e l'ha corcato le botte, quindi insomma diciamo che l'impatto è stato un po' così, insomma, no? E invece la prima, proprio la prima volta è stata con, cioè, allora, nel, quando facevamo un po' i grandoni, no? Cioè, ah, perché io il porno, ho visto il film porno, so che non ho visto il film porno, io mica manco mi fa tanto effetto a me il film porno, perché insomma, capito, facevi il porno. Non mi fa effetto. Esatto, allora a un certo punto... Io giro. Sì. Io li faccio i giri. Qual è l'effetto del film porno, scusa? Poi te lo spiego. Comunque, a un certo punto arriva questo amico mio, fa, Joe, tu, fa, dice, era venuto da me in particolare perché io c'avevo il Betamax, non c'avevo il VHS, c'avevo il Betamax e lui c'era questa cassetta Betamax col po', qui mi ha detto c'è un porno dentro, c'è un film, se lo vedevo, però se lo potevo vedere solo da casa tua perché tu ce l'hai questo, io, questo è il mio videoregistratore, no, non ci va, si diceva, non ci va il mio registratore. E che iniziamo a vedere questa bellissima storia di un ragazzo che era, adesso mi ricordo pure la storia, ragazzi, perché sono seguito tutto, che praticamente era sto ragazzo che era rimasto orfano e che la zia l'aveva ospitato temporaneamente nella sua casa e per ottenere l'eredità, insomma, di questo, se lo scopano tutti praticamente, ma cioè, scusate, lo sapevo che vabbè, insomma, lo si approcciano tutti, tipo la zia, la nipote, tutti, insomma, quindi e secondo me, insomma, e quando lì veramente sono rimasto, cioè, tipo proprio soffio al cuore, dico, questa roba che, oddio, cioè quando la prima volta che lo vedi veramente e non puoi fa, devi mantenere un po' il gradassume che hai sempre, ma io c'è il porno e allo stesso tempo stavi scoppiando perché stai vedendo delle cose che erano fuori dalla grazia di Dio, insomma, no? Che poi tra l'altro No, dico, cioè, tra l'altro la cosa bella è che in realtà molto di tutto questo, in qualche maniera, anche se oggi noi ci ridiamo sopra, fa anche un po' ridere, no? Il modo in cui, però era pure il modo in cui noi piano piano poi ci siamo approcciati alla sessualità con quello che sapevamo, cioè praticamente niente, no? Cioè, addirittura io mi ricordo che c'era un amico mio che diceva, sapete che quando si fa l'amore è uno sforzo incredibile per il corpo, possono venire dei crampi. E io pensavo, oddio, è una cosa terribilissima, non lo voglio mai fare, capito? Queste cose. Si rischia di morire, si rischia. E poi c'era anche da dire che era paradossalmente gli anni 70, l'Italia c'era un approccio un po' ambivalente, diciamo così, perché su alcune cose c'erano certe cose molto sfacciate. Io mi ricordo che anche su Oggi, per esempio, o su Gente, c'erano magari delle pubblicità. Io mi ricordo una pubblicità di questa donna che salta fuori da una pelliccia completamente nuda, no? Ed era una pubblicità, cioè una cosa normale, cioè, nel senso, allora era una, e poi c'era Postal Market, no? Cioè, nel senso, Postal Market che te lo dica fa. E allo stesso tempo in televisione, con meno regolamentazione, capitava che c'era il film con la scena, oppure c'era il periodo in cui su Canale 5, Italia 1 facevano la notte erotica, no? I film, cioè, magari facevano il film, che ne so, i film de Boderek, queste cose qui, no? Quindi alla fine, comunque, piano piano, insomma, l'approccio ce l'hai avuti. Però ecco, la prima volta è stato questo film che mi sconvolse dal punto di vista sia narrativo che insomma, perché insomma vedevo quello che succedeva, cioè, è veramente sì. Ma sulla timeline temporale, le tette della Barbie dove erano? No, le tette della Barbie era molto prima, ma io c'ho anche altri racconti che non farò mai. Di cose strane che facevo io nella mia vita, insomma. Però... Non ci racconti di Ken, insomma. Ah, poi Michela giustamente dice: potevamo essere ricchi sfondati. In realtà no, ricchi sfondati non credo. Però sicuramente, perché io conoscevo, sono veramente tantissimi anni che non lo vedo, saranno almeno 15 anni. No, 10 anni. Non lo so, vabbè. Comunque, sto tizio che faceva il produttore dei film porno. E che lui mi ha sempre detto: vieni a fare l'operatore, vieni a fare il regista, tu sei bravo, vieni a fare. Io giustamente ero sposato da pochissimo con Michela, gli facevo: no, guarda, non mi pare il caso, insomma, no? E Michela mi faceva: cioè, perché hai rifiutato? Magari tu ci rimanevi male, roba del genere. No, ma avremmo potuto guadagnare dei soldi. Vabbè, di sicuro i soldi, ecco, una cosa che questa è sicura, il mondo del porno ha sempre fatto girare un sacco di soldi. Sì. E da quando è nato internet, io ho iniziato a fare siti da subito, nel 97 facevo, giusto per dirvi, i primi siti commerciali per le aziende, ho iniziato a farli. E dal 97, cioè da quando praticamente internet è diventato popolare, già da subito l'unica cosa all'inizio che faceva soldi e quella che ha sempre fatto più soldi è il porno. Sì, anche oggi il modello, sì. No? Sì. Cioè nel senso, anche oggi il modello è completamente cambiato, ma infatti ci arriviamo. Vediamo un attimo, a questo punto iniziamo, poi dopo inframezziamo, diciamo, i nostri ricordi, no? Però come si produceva la pornografia e dove andava a finire poi? Perché insomma, questa è una cosa abbastanza importante. La cosa più tipica era quella dei film, ovviamente, no? Che vedono anche in questo caso, come abbiamo già parlato magari nella puntata che abbiamo fatto della pellicola, una grossa e netta differenza già tra anni 70 e anni 80, perché comunque negli anni 70 ancora le produzioni si facevano dal punto di vista proprio cinematografico, quindi ovviamente c'erano delle cineprese, c'era una pellicola, c'erano delle maestranze, c'erano dei costi di produzione e non solo, c'erano dei costi di stampa e di sviluppo e di stampa, perché poi chiaramente questi cose. Ma è vero che non si potevano girare in Italia? O non si possono girare in Italia? Allora, ho letto qualcosa del... Allora, non si potevano girare in Italia negli anni 80, 90 e 2000. Poi io non so dopo se questa cosa è cambiata, ma soprattutto non so prima, perché prima in realtà non c'era una vera regolamentazione. Infatti questa cosa dei film in realtà poi alla fine portò piano piano ad una serie di regolamentazioni in Italia, perché in realtà chi erano questi attori, quanto erano consenzienti, c'erano tutta una serie di sottosituazioni nel mondo del porno, come insomma è anche facile immaginare, che magari erano chiare e limpide, ma molte erano, insomma, era un ambiente un po' particolare, no? E io faccio sempre un po' riferimento a quel film, quello che ho detto io prima, cioè il primo film che ho visto io, dove c'è sta una scena dove lui alla fine fa sesso con la nipote, cioè quindi con la figlia della zia. Per me quella poteva essere benissimo una ragazzina, quantomeno una diciassettenne, ok? Quindi c'era tutta una serie di situazioni che poi piano piano sono state profondamente e fortemente regolamentate, no? E questo, questo è ovvio, insomma, perché alla fine, poi essendo un fenomeno così ampio, così importante, doveva per forza essere regolamentato. In Italia la pornografia era legale, è sempre stata legale, però sì, per tantissimi anni non si poteva produrre, che poi è un'ipocrisia infinita, perché comunque c'erano grosse case di produzione di pornografia in Italia, cioè l'Italia è stata, ci ha avuto, insomma, diciamo, una, a parte gli americani che chiaramente facevano le cose. Vabbè, ancora adesso quando dici attore porno dici un italiano, no? Così freddi, esatto, sì, no, infatti. La legge Merlin, che è italiano, ma che comunque vive all'estero e ha sempre prodotto all'estero. Sì, infatti sapevo questo, perché sapevo di questa cosa, almeno avevo letto di questa cosa sempre, qui, che diceva. Non sempre, cioè lui comunque nasce come attore e produzioni italiane, poi dopo è diventata mista, poi lui ha prodotto molto in America, certo, chiaramente è diventato un fenomeno lui, cioè nel senso, diciamo, è stato l'erede di John Holmes, no? Dato che parlavamo, insomma, quindi parliamo di persone con delle prerogative, diciamo così, delle superdotazioni fisiche. Esatto. Che, insomma, comunque io ricordo che mentre giravano i film, molti film li vedevano, non so se ci facevate caso, si vedevano i flash girare, perché facevano le riviste mentre intanto li facevano i film. Sì. Questo però dopo. Si sfrutta tutto. Questo più l'unico dopo. Colpo facevano tutto, editoria, film, video, eccetera. Non lo so, ho visto spesso, vedevo questi flash, che dicevo, cacchio sono questi flash? Perché sì, diciamo che da quando è subentrato il video in particolare, da quando poi la produzione cinematografica è diventata più amatoriale, tra virgolette, quindi con meno struttura produttiva, sì, sicuramente si vedono i flash e tutto quanto. Dalla VHS, quindi dai nastri magnetici. Esatto, forse sì, però diciamo che quando era ancora in pellicola, diciamo che il set era il set, ragazzi, cioè c'era lo stesso tipo di lavorazione che era quella di un piccolo film indipendente degli anni 70, che c'erano dei soldi dietro, insomma, a livello di produzione. Un'altra cosa, ovviamente, con la quale veniva distribuito, ovviamente, dove veniva prodotto erano le riviste, no? Cioè le riviste richiedevano set fotografici anche qui, insomma. Sì, ma poi c'erano anche i cinema luci rosse specializzati. Sì, quello, quello ci arriviamo dopo, quello sul, sul discorso della distribuzione. Cioè, per esempio, le riviste, appunto, c'erano degli studi specifici, ma anche, voglio dire, a volte pure magari più improvvisati. C'erano ovviamente i soliti costi della fotografia, del fotografo e dei consumabili, ma insomma, la cosa era già molto più abbordabile. Poi io non so i costi di stampa e tipografia, che magari conosce molto di più Carlo, avendo insomma lavorato nell'ambito dell'editoria, non porno, però insomma nell'ambito dell'editoria, insomma. Però ecco, diciamo che le riviste, secondo me, in maniera particolare sono state una parte molto più preponderante rispetto a tutto il resto, perché c'era un fattore anche di praticità, no? Cioè, nel senso, comunque la rivista, certo, vabbè, come dicevi, vai in bagno e ti vedi la rivista. Esatto, bravo. Di che anni Postal Market, Vestro, Postal Market. Sì, no, sì, a parte quello, però ecco, cioè, tornavi a casa... Sempre anni 70 e 80, comunque, perché io però, allora, scusate, aggiungerei, vai. Ci sono le riviste ed hai ragione, ma le pubblicità mezze tagliate che andavano di notte dei vari Magic America e compagnia, che però quella è sempre dopo, pubblica, però, privata dopo, sì, siamo veramente negli anni 90, fine già. Anni 80, anni 90, beh, sì. Metà sì, anche anni metà. 90. Beh, lì c'è stato comunque un periodo dove non era tanto mascherata, all'inizio, no. Io parlo a Milano, c'era il famoso film porno delle due di notte su Telereporter, sì. Che perché molta buona parte della TV libera nasce lì, e allora fra tutti i ragazzini bisogna trovare una scusa per stare in piedi alle due, fare in modo che i genitori non si alzassero o non fare troppo rumore, perché sennò venivano a vedere che stavi combinando. Poi scoppiò un mezzo casino, praticamente impedirono, arrivati a un certo punto, di mandare direttamente queste cose che erano proprio hard, e cominciò a comparire più avanti le varie pubblicità, quindi con Selene, che era giovanissima, aveva avuto veramente 19 anni, tutti questi che mandavano la pubblicità con gli spezzoni di questi cosi tagliati nel momento topico, diciamo, dove doveva succedere qualcosa. Allora guarda questa, io mi ricordo, questa è una cosa che succedeva un po', penso un po' dappertutto, perché io ricordo c'era Telelupo, Telecapri, c'erano tutte queste emittenti che facevano questo tipo di cosa. Però ti ribadisco, siamo già in fase finale degli anni 80 e fase anni 90, addirittura oltre alle pubblicità con i trailer dei film porno, quindi insomma che erano un po' rabberciati per non far vedere proprio lo specifico, addirittura facevano trasmettevano l'intero film porno e nella scena facevano un crop per praticamente levare la parte esplicita, insomma. Però alla fine, cioè, da ragazzino accontentavi, bastava e avanzava, esatto. Sintetizzava la fantasia, sintetizzavi, esatto, la mente simulava ed era sufficiente. Comunque le riviste, poi dopo magari vediamo anche un po' che tipo di riviste più avanti erano, secondo me, una parte preponderante proprio per una questione di praticità, cioè il discorso di Famiglia Cristiana con dentro a ricordarsi le cose quando si parlava di quello, ti ricordi i nomi delle riviste, no? Le ore, eccetera. Se vi ricordate Caballero, che era in un formato molto più piccolo, appunto per la praticità, c'erano quelle per i ragazzi, c'era più Blitz, giovani, tipo Blitz era piccola, era piccoletta, Gin Fizz, erano tutte piccolette queste. Gin Fizz, esatto, che perché le trovavi dal parrucchiere te le infilavi, però erano soft tra virgolette, c'erano sempre le stesse attricette della commedia all'italiana, più o meno, anche se poi nella fase finale di Gin Fizz loro aggiunsero anche delle scene, diciamo, softcore all'interno, quindi c'erano questi fotoromanzi. Poi me ne ricordo una, ve la ricordate? Autoscatto. Ma quella è diversa. Sì. Era praticamente il proto-selfie, praticamente. Praticamente era una rivista fatta dai lettori che facevano quelle robe lì e mandavano le fotografie alla rivista per essere pubblicate. Sì, quella è l'antesignano dell'amateur. Quindi, sì, esatto. E poi c'erano, ragazzi, i fumetti e i disegni animati. Allora, i disegni animati c'erano i cartoni animati, già negli anni 70 sta cosa. E addirittura io vidi una volta in televisione un film animato erotico. e non l'ho mai più ripescato, l'ho sempre ricercato. Era, cioè, c'era sta tizia che faceva l'amore con un robot, un robottino, e è una cosa che insomma, vabbè, anche quello me ricordo. Però vedo, io mi ricordo quando sono arrivati i primi le prime videocassette copiate tra gli amici che giravano, ma stiamo parlando già degli anni 90 lì, dei quelli giapponesi, come si chiamavano? Gli hentai, sì. Hentai, bravissimo, esatto, non mi ricorda, non mi viene al nome. La clinica dell'amore. I primi hentai, esatto. A me non mi sono mai piaciuti, ho sempre trovato. Ma noi giravano da tra gli amici, la roba giapponese era proprio grottesca, cioè, alla fine sta cosa dei tentacoli, delle cose, cioè, sì, mostri, sì, c'era dentro di tutto e di più, esatto. Mostri spaziali, però, cose stranissime. Vedo su questa cosa dei il tromba, volete, cioè. Vabbè, quali erano i fumetti, il telando tre palle, il tromba, eccetera. E io mi ricordo anche una parodia di Goldrake che poi ho rivisto recentemente su internet, si chiamava Kazonga che era Goldrake in versione porno praticamente. Esatto, se lo cercate su internet fa morire da ridere. Io vedo Davide che qua su fumetti e disegni animati ha messo una bella lista, insomma. Davide, sì, questi fumetti qua a casa mia ne giravano a un certo momento. Allora, secondo me già a casa mia comunque il discorso della pornografia era, non lo so, secondo me, come dicevi tu, no, che tu trovi strano che nelle case c'erano, secondo me i miei amici ce l'avevano tutti, chi nascosto nell'armadio, come dicevo, chi nel comodino, chi sotto di qua, tutti avevano i genitori, e parlo più, sì, che sì, altro il padre. Madre magari non lo so, no, ma poi in realtà poi l'ho scoperti anch'io, cioè, dopo, però quindi giravano, era molto comune che ci fossero, e lo stesso questi fumetti in casa mia, essendo tre fratelli maschi, dove io ero il più piccolo, e quindi ce n'era uno più grande di me di 4 anni e un altro più grande di me di 4 anni, è evidente che loro tranquillamente li potevano leggere alla luce del sole, non dovevano neanche nasconderli. Erano in bagno, semplicemente appoggiati in bagno, c'era un mobiletto con lo shampoo, quello, e i giornaletti. Vabbè, era più pratico. E c'erano i Terror Blu, Isabella, Tromba, Lucifer, cambiavano, i miei fratelli li prendevano, non li prendevo io. E io mi piacevano in particolar modo queste cose, le trovavi pure dal coso, dal, come si chiama, il barbiere, tante volte parrucchiere, trovavi tutta la gamma completa per gli adulti, per i ragazzi, eccetera, però c'erano tutti i livelli, quando arrivavi dal parrucchiere li vedevi lì le montagne di leone, però tu eri piccolo, non potevi andare lì, no, forse leone non mi è mai capitato, però i fumetti che alla fine, cioè, tra Tex e quelli altri c'erano dentro, c'erano Lando, sì, Terror, queste cose qua, cioè, quindi alla fine. Volevo ricordare solo Terror Blu, che a differenza di Terror, che era una roba, diciamo, più normale, Terror Blu invece era fantascientifico, era sempre qualcosa di fantascientifico, quindi c'era il mostro che leggeva la mente, che costringeva, cioè c'era sempre delle robe sul fantascientifico, per cui era una roba più simpatica, e ovviamente la fantascienza offre cose diverse, chi aveva due cose, chi aveva tre cose, chi aveva tre cose, due cose, adesso non voglio specificare, però abbiamo capito. Non penso che ci sia tanto da specificare, esatto. Quindi ci sono tante cose strane, ero curioso, mi ricordo se Terror Blu che era quello che mi piaceva di più, ecco, quello che poi adesso qui facciamo un attimo, un secondo, una piccola pausa per sbollentare o forse per aumentare il bollore. E in realtà noi c'avevamo una volta su VPN un programma, si chiamava Rocket Balloon, che era fatto da questi due ragazzi, di cui uno anche molto esperto, un ragazzo di Palermo, di fumetti in generale a largo campo, e fece una puntata perché in realtà il fumetto erotico italiano ha fatto scuola, poi fondamentalmente era uno tra i più popolari a livello mondiale, insomma, quindi è anche interessante il fatto che alla fine di tutta sta roba c'è sempre, insomma, qualcosa da imparare. Poi è chiaro che di tutte queste cose uno dovrebbe fare puntate specifiche per ogni cosa, ma noi in realtà, come abbiamo detto, su Quando Eravamo Futuro cerchiamo, insomma, di fissarci più sul fenomeno che su altro. Allora ascoltatevi un attimo sta cosina, va? We'll be right back. No, ok. Pensavo, no, pensavo, non l'avevo sentito. È colpa di Davide Gatti, ragazzi. È colpa di Davide Gatti. Che ognuno si prenda la propria responsabilità, perché io sono andato tranquillo, dico, vabbè, poi ho sentito una cosa già che non era tanto chiara, poi dopo alla fine era molto... Hai sentito Valchino, hai già capito. Ha detto qui va a finire veramente male. Scusate, volevamo fare. Invece va a finire peggio, volevo dire. Va a finire assolutamente peggio. E questa chiaramente è Cicciolina. Che poi, tra l'altro, io. Allora, uno avrebbe potuto anche un po' immaginarlo, perché il brano Cicciolina si chiama Muscolo Rosso. Però in realtà magari poteva fare il gioco, no? Col fatto del cuore, magari, no? Nel senso, molto, esatto, molto, certo, si faceva magari questo riferimento allusivo tra sesso e amore, no? Quindi alla fine ci poteva anche stare. Invece no, è proprio brava Cicciolina, brava. Brava, brava, brava, ragazzi. Ministro della Repubblica Italiana. No, ministro, deputato, no, ministro, esagerato. Deputato. Deputato. Comunque eletto. Sì, sì, sì. Dico la frase, scusate, Cazzonga aveva sotto una cappella a testata nucleare. Ecco, a posto, bene, bene. Allora, mezzi di distribuzione della pornografia. No, poi dopo voglio sentire un attimo un po' i vostri racconti. Vabbè, le riviste, ragazzi, l'abbiamo già detto, c'erano le riviste quelle osè, cioè quelle un po' più erotiche, quelle soft, dove c'erano soltanto i nudi, poi fondamentalmente, un po' tipo poteva essere Playboy, no? Diciamo, il modello era quello. Sì. E alla fine c'erano questi ragazzi che facevano questi spogliarelli, tutto il servizio fotografico, c'erano 5-6 servizi fotografici, e insomma ci andavi avanti per diversi giorni. E personaggi anche famosi. Anche famosi, come noti, Nick Canzino, insomma, Lori del Santo addirittura, insomma, tutta gente che ha bazzicato. E alla fine... Playboy ci fu anche l'edizione italiana di Playboy, se non sbaglio, se sì, non ricordo, sì, certo, male. Sì, diciamo, non, però dei Playboy mi ricordo l'edizione in video, cioè c'era un canale che trasmetteva, no? La trasmissione dei Playboy, sì. Quindi, insomma, e così. E poi c'erano, quindi vabbè, ricordiamo un attimo appunto le riviste quelle più soft, che appunto, come dicevamo, Penthouse, Playboy, Playman, c'erano i fotoromanzi, esatto, insomma, che erano comunque, no, non c'erano i fotoromanzi normali, e poi c'erano i fotoromanzi, cioè Super Sex, come Giuseppe, ma Blitz, Gin Fizz, che abbiamo detto prima, e ce ne stavano diverse, insomma, che alcune erano in formato grande, quindi erano un po' più complicate, un po' tipo quelle più porno, che a volte erano proprio grandi, e poi c'erano quelle più smart, quelle più piccole, che te ne mettevi sotto la maglietta, sotto l'ascella, e andavi al bagno, insomma. Tra l'altro, io qui c'ho un ricordo che comunque voglio comunque condividere, mi sono scordato di rifar partire la base, e dopo voglio condividere con voi. E poi c'erano, ovviamente, insomma, poi magari poi mi dite un attimo che tipo di rapporto ci avete avuto con queste riviste, cioè invece quelle proprio pornografiche, dove c'erano sempre questi servizi fotografici che però erano proprio espliciti, cioè nel senso, così come la canzone di prima, quindi Caballero, per esempio Caballero, che ha messo sempre Davide, perché questa fa parte della lista di Davide, io non lo conosco, cioè non so di che si tratta. Io me lo ricordo. Era piccolina, sì. Girava, poi delle riviste di questo genere si parte, cioè Le Ore era classico, che conosciamo tutti, sì. Che era quello che appunto però usava un sistema di studio fotografico, una roba fatta bene, poi c'era una caduta di stile, pian piano c'erano le riviste proprio quelle proprio fatte cantina al volo, buttate lì, però c'era quelle di qualità e quelle un po' meno di qualità, però il titolo, me ne ricordo una che iniziava con H, il titolo sembra in inglese H qualcosa, ma non me lo ricordo più, tipo Le Ore, c'era Le Ore e un'altra, boh, sì, adesso non mi vedo neanche in mente, a me, a dire la verità, però diciamo, queste sono quelle che ci ricordiamo tutti al 100%. Sì, beh, Le Ore era proprio quella per eccellenza, secondo me era... Poi dopo ognuno al proprio orticello. Sì, magari lì a Roma girava di più Er Caballero, e da noi girava Il Caballero. Che no, diciamo che il nome mi dice qualcosa, ma penso non l'ho mai visto, insomma, sto Caballero, devo dire. Caballero mi ricorda altre cose. Forse la moto. No, forse più legate al coso, ai Carosello, per esempio, insomma, c'era una cosa col Caballero. Sì, Carmen Sita, Caballero. No, c'era il Dindondero. Il Dindondero. Esatto. Davide, invece, teatri e spettacoli dal vivo. Te lo dico a te perché sei... Sì, perché allora in quel periodo lì, se vi ricordate, se non so da voi, ma qua a Milano sì, a un certo momento, sempre nel periodo degli 80 in particolare, ce n'erano veramente tantissimi di questi teatri che facevano vedere spettacoli di vario genere, che però tu li vedevi, erano tutti oscurati, c'era scritto teatro, c'era fuori la locandina con scritto c'era il famoso serpente che faceva lo spettacolo col serpente. Chi era? Era Cicciolina o era Cicciolina. Sì, col serpente, che era famosissimo. Nella scuola, al liceo, si parlava solo di quello, e quando bisognava, io sono mai andato, però mi ricordo che amici si mettevano d'accordo per andare, e mi ricordo che il teatro era in centro, vicino a San Babila, se non ricordo male. Ce ne sono sempre tanti, ce ne sono stati tanti, poi adesso magari non è lo stesso che ci ricordiamo, perché ce n'erano almeno uno di fianco all'altro. A volte c'è delle zone che erano veramente la zona luci rosse. Giusto, poi mi sono dimenticato di scrivere una roba qua su questo coso che mi viene in mente adesso. Comunque c'erano questi teatri, no? Che però da noi venivano, non nessuno di noi ci andava mai a vedere lo spettacolo così di propria iniziativa, andiamo a vedere lo spettacolo. Era invece molto frequente che succedeva che quando c'era un addio al celibato, non si sa perché, si partiva e si andava in uno di questi teatrini, si portava l'amico, che poi veniva ovviamente spinto sul palco, la tizia capiva che era lui l'oggetto del, si sedeva su di lui, gli faceva tutte le robe, non si faceva niente, però fondamentalmente un po' così, metterlo un po' a disagio. E io mi ricordo di essere andato a uno spettacolo, l'unico della mia vita, era appunto un addio al celibato di un mio amico. Mi ricordo ancora il titolo, si chiamava 7 più 7 magnifiche tette. Il titolo dello spettacolo è rimasto impresso. Il titolo è rimasto impresso, l'abbiamo visto. Io anche lì, per la prima volta, credo di aver visto dal vivo tutta una serie di cose che non avevo mai visto prima. Perché nei film sicuramente ho visto tante cose, nelle riviste sì, ma dal vivo mai. E lì fu forse la prima volta che vidi qualcosa dal vivo, che è fatta così. E niente, quindi questo era un fenomeno che ha avuto un certo boom, secondo me, in quel periodo. Adesso non so bene se esistano ancora sti posti. Ma penso di sì, ancora, sì. Comunque, io mi ricordo anch'io un addio celibato di un mio amico che ci portarono in un posto di quel tipo lì, me lo ricordo bene. Ci fu tutto lo spettacolino di questa qua, che appunto, come dicevi tu, poi si sedeva addosso, si strusciava, come hai detto, non succedeva niente, ma si vedeva tutto, insomma. Faceva il suo momento così, la persona ovviamente era un po' imbarazzata, un po' in panico, perché si trovava questa qua seduta, esatto, addosso, e gli faceva le carezze. Che poi posso dire io una cosa, cioè veramente mo non voglio farla, io questa cosa non l'ho mai capita, proprio sarò strano, perché io ma neanche, cioè, non l'andare a vedere lo spogliarello, oppure la tipa che ti si struscia, cioè il fatto che tu domani ti sposi e quindi la sera vai a vedere lo spogliarello con quella che ti si struscia, cioè, non lo capisco, non lo so. Perché in teoria è l'ultimo giorno in cui, in teoria, perché non sarebbe così, ti sarebbe possibile farlo, questo è il, capisci, l'ultimo giorno di libertà, cioè, okay, ma se per te sposarti non è più una libertà, allora che cazzo ti sposi a fare? Cioè, dovrebbe essere solo un gioco, poi a volte finisce anche male. Tu Roberto invece dal vivo? Dal vivo, fammi pensare. Sì, poi mi sto le bambine a 5 anni, vedevi al vivo. Io, però all'epoca era una cosa, all'epoca era quella lì, era quasi una sfida, perché non capendo assolutamente che cavolo facevi, era una cosa che dava quasi fastidio. Infatti ancora adesso mi do del cretino, figurati. Dal vivo sì, anch'io andammo con gli amici di liceo a vedere quella cosa che diceva prima Carlo, che aveva a che fare con pitoni vari, ecco. E anche con quell'altra cosa che ha detto prima, con un cercare di far centro in un secchio. Adesso non entriamo in dettagli, sempre la stessa... E che era Milano, posso. Quindi era una cosa abbastanza sei andato già a vedere roba di pregio, noi eravamo una robetta così, sentivo parlare le compagnie, perché non puoi dire di no, perché uno diceva dobbiamo andare e tu non puoi dire no, ma che, cioè, sennò sembri debole. Allora sicuramente costava parecchio, perché sicuramente costano, ma quando c'è un personaggio famoso che fa delle cose, sicuramente costava non mi tanto. Ricordo, ti direi una fesseria. E quindi ero al liceo, all'epoca, maggiorenne, se non ti facevano entrare, questo è sicuramente la cosa, diciamo, di spettacolo. Oi? Che ho visto, ma niente di che. Sempre tra amici, però eravamo più grandi, a Pigalle, a Parigi. È stato fortissimo perché in teoria voleva essere erotico, cioè doveva esserlo, però noi continuavamo a ridere e il tizio, praticamente, quando ridevamo, non riusciva, come posso a dire, fare quello che doveva fare, quello che avrebbe dovuto fare. Allora, da un po' si è incazzato, ci ha detto: "Oh, io devo lavorare". Alla fine è riuscito e ha avuto un fortissimo applauso, però a quell'epoca eravamo parecchio più grandi, quindi l'abbiamo presa più come una... Ma sì, come posso dire? Beh, io la questione dei live, insomma, dei spettacoli al vivo, sì, ma addirittura io, un mio amico faceva il pianista in uno dei locali di Schicchi, noi ci abbiamo avuto come assicurazione alcuni locali scambisti e Grottaferrata, perché... Cioè la parte Roma Sud, quindi quella dei Castelli Romani, era una sorta di fulcro, praticamente c'era una colonia proprio di tutta sta roba. E infatti la Silicon Valley. Esatto, era la porno, Silicon da un'altra parte. La porno Valley era, praticamente, quindi insomma era Silicon dentro da un'altra parte. Esatto. E, però ecco, una cosa che mi è capitato invece di vedere era proprio questa cosa dei cinema, cioè in Italia in particolare, per tutti coloro che magari non avevano facile accesso, insomma, a una pellicola, o magari non sapevano dove nascondere la rivista, c'erano i film e i cinema porno, no? C'erano proprio... Sì, questa è una cosa che è completamente scomparsa, che beh, sì, anche ovviamente non sanno manco cosa sia stato, siano esistiti, loro, dai, guarda, da una parte, no, da una parte sì, da una parte no, nel senso che bisogna dire che il cinema porno era un ambiente molto triste, oggettivamente lo era per tante ragioni, e anche collegato, diciamo, anche a appuntamenti, prostituzione, scambismo, certo. Gente che veniva lì, anche certo. Gente che veniva lì che te vedeva, tu eri un ragazzino che magari faceva le avance, cioè c'era un po' tutto il corredo del peggio che ci poteva essere all'interno di quella cosa. Però a Roma, al di là dei classici cinema porno, c'era il cinema, adesso non mi ricordo, vicino Termini, il Volturno. C'era il cinema Volturno, a via Volturno, che faceva il sabato sera, faceva una cosa particolare, perché in realtà il cinema Volturno era un vecchio teatro di varietà, e quindi tu andavi, cioè una volta con un amico mio aveva preso i biglietti, andavo, andavo, vedi spogliarelletti, e c'erano tutti sti balletti con le brasiliane che poi alla fine si spogliavano, però era, cioè era strutturato, era fatto bene, c'era musica, le pagliette, c'erano le luci, tutto, e poi zizze, chiappette, insomma, così. Era quindi più teatro che cinema, vorrei. Più teatro, e poi dopo, quando finiva tutta questa diritera con queste che sfilavano, poi se in mezzo al pubblico se strusciavano il sedere sulla spalla, no, per dirte così, e poi finito lo spettacolo c'era il film. Ah, ho capito. E lì praticamente il posto si trasformava, cioè era come Silent Hill tra il giorno e quando diventa poi la parte quella oscura, praticamente la stessa cosa, cioè, c'era questo ambiente che si trasformava in una maniera radicale proprio, cioè c'era una tristezza. E poi vabbè, cioè, ovviamente insomma, anche gente si toccava, faceva cose, quindi diciamo il cinema era un'esperienza che magari nel periodo del militare sarà capitato a tutti, però allo stesso tempo era anche una cosa che se i ragazzi di oggi si sono evitati, un po' un peccato, un po' forse io anche bene, insomma. Io mi ricordo ancora la trama del, sono andato una sola volta al cinema porno e c'era il Fachiro Mazza. Lo devo trovare. Sì, però i titoli dei film porno, quelli sono fantastici. Ah, beh, mi ricordo sì. Che beh, sì. C'erano le parodie dei film normali che avevano dei titoli che a volte, quando li vai a rileggere, muori dal ridere, proprio da una cosa allucinante. C'erano tutti i film che uscivano e poi usciva la parodia porno del film, ve lo ricordate? Tutto questo periodo qui. Anche Biancaneve e Sette Nani. Sì, che aveva un altro titolo. Sotto i Nani, sì, scusa. Cioè, no, sì, uscivano. Beh, sì, dai, le casalingue e così via. Cioè, casalingue, esatto, ma sì. Anche Alien, vabbè. Se mi ricordo, c'è stato sempre di tutto. Beh, c'è sempre la famosissima scena di Sperminator di Fantozzi, no? Che lui andava al cinema, le casalingue, sì. No? Nel senso, che poi escono dal cinema. Ma ti era venuto il dubbio, no? Cioè, vabbè, magari non si confonde. Ma in realtà sì, in effetti i nomi dei film porno sono sempre stati molto molto molto divertenti, devo dire, sì, cioè, alla fine comunque anche fantasiosi, perché poi molto, comunque il mondo della pornografia un po' ci giocava sta cosa. Però Pocahontas. Pocahontas. Anche. Io non ho mai visto un film, devo dire la verità, non sono mai andato al cinema a vedere uno di quelli, perché comunque nel mio periodo io non sono mai entrato, io no, perché comunque quando ero maggiorenne praticamente già arrivava, c'erano già le videocassette praticamente, sì, quindi sì, non c'era, il cinema era morente per quanto mi riguarda. No, quello è, si andava al cinema almeno, a parte quelli che andavano per altri motivi, in compagnia. Ma era una cosa goliardica, sì, sì, era quasi una cosa goliardica. Lo so, sono d'accordo. Sono sì, però hai ragione. Cioè, se io fossi stato al cinema porno da solo sarebbe stata un po' triste. Sì. Comunque, cioè, Davide ha ragione, nel senso che quando sono uscite le videocassette è iniziata la morte del cinema. Sì, quindi in realtà noi abbiamo già vissuto il periodo decadente di quella parte lì. Chi ha 10 anni in meno di noi ha vissuto a pieno quella. Sì, anche se a Roma alcuni particolari, quelli storici, hanno resistito molto. Io quelli storici hanno resistito di più. Mi ricordo che a Roma c'era uno a Piazza della Repubblica, che poi è diventato un Warner, quindi insomma era pure un cinema grosso. Cioè, insomma, parlare comunque, perché una volta, mo noi siamo abituati ai multisala con le sale un po' più piccole, ma una volta a Roma i cinema erano giganti. Cioè, erano giganteschi, cioè nel senso entravi dentro e... Vabbè, a parte come si stava al cinema una volta, che era tutto un altro programma, insomma, di cui parlare. Però ecco, cioè, nel senso, alcuni hanno resistito molto e alcuni poi sono stati appunto acquisiti e convertiti, e alcuni invece sono stati riacquisiti da alcune associazioni culturali che hanno fatto una riqualificazione, perché anche comunque c'è tutto un asset dietro che andava recuperato, il fatto che comunque erano anche dei teatri, il fatto che comunque erano quello di Rovato, che c'era storico qua, che ha chiuso 20 anni fa, l'hanno abbattuto quest'anno l'hanno raso al suolo, perché era rimasto in piedi per un sacco di anni lì chiuso, e poi quest'anno l'hanno brasato, non c'è più. Peccato, no, invece a Roma molti sono stati riqualificati, sono diventati centri culturali e dove fanno anche festival cinematografici, insomma ha anche un senso, no, da questo punto di vista, comunque ridai vita a una cosa che poi, sai, la pornografia tante volte è stata anche legata molto alla criminalità, quindi ci sta anche il fatto che alcune cose sono state anche sequestrate, messe i sigilli e via dicendo, insomma, perché quindi... tutte le cose che diventano borderline finiscono per essere date in regalo, io dico, alla criminalità, senza allargarci, perché non è questa la trasmissione, però è sempre così. Tipo la Bali Midway, per esempio, Roberto. Non dirlo, non fare spoiler. E Davide, i programmi televisivi. Aspetta, però prima di arrivare a questo punto, prima di fare poi una seconda pausa, sperando insomma che sì, perché io non... No, il primo titolo che ti ho dato è tranquillo, dai, quello è tranquillo, lo conosciamo tutti, dai. No, ma quello non l'ho messo perché ho detto, vabbè, che senso c'ha, nel senso, quella la conosciamo tutti, no? Invece siamo andati a esplorare queste altre canzoni che però mi arrivano sempre 20 minuti prima della trasmissione, quindi è un po' complicato. Però adesso sentiamo questa canzone fino a che si possa ascoltare. Intanto vi do il tempo di pensare alla situazione più imbarazzante che vi è capitato nell'ambito pornografico, cioè nel senso, comunque la volta siete stati scoperti o che vi è cascata la rivista davanti a nonna, cose del genere, insomma, quindi pensateci un attimo e vediamo che cosa ne esce. What you do, I gotta make it through. I'm telling you to do what I feel for you. You know it's just my way. Oh baby, let me stay. Your body is for me. Je te dirai oui, oui. Spray your love on me. Macho. Da da da. Allora, questa è Moana Pozzi. Non è niente di ardito rispetto all'altra canzone, però è una bella merda, diciamoci la verità. Insomma, fa proprio abbastanza schifo. Si chiama merda anni 80 proprio di quelle. Ma poi la cosa bella di queste canzoni, come era anche ovvio, perché non erano certo delle cantanti, è il fatto che le voci sono più basse della musica. Comunque si chiama Super Macio Moana Pozzi. Vabbè, poi ne parliamo di Cicciolina e Moana Pozzi, perché insomma il partito dell'amore, sì, vabbè, ma non è solo quello, eh. Comunque stiamo parlando fenomeno culturale delle persone che sono di più di quello che molti pensano che abbiano rappresentato. Comunque, allora, vi è venuto in mente? Sì, io sì. Vai Carlo, inizia tu allora. No, quello più imbarazzante, me lo ricordo perché è stato veramente evitata per tipo qualche millesimo di secondo, ma abbastanza. Stavo facendo il test del videoproiettore in taverna e, come tutti sappiamo, noi quando è che abbiamo tempo di fare queste prove qua del montare videoproiettori, testare cose eccetera, non so Davide, quando è che hai tempo tu di farlo? Tra mezzanotte e le due di notte più o meno, sì, più o meno, sì. Soprattutto quando hai moglie, figli eccetera. Ti sto parlando che ero appena sposato, cioè era nata mia figlia piccolina, sai, conto che avrà avuto 5 anni, non mi ricordo, e io tipo al videoproiettore all'epoca, un DLP appena preso, usato eccetera, in taverna, stai lì, monta, regola, prova eccetera, attacca, prova. A tempi, stiamo parlando di primi anni 2000, quindi c'era ancora la televisione normale e c'erano ancora alle due di notte quelle cose lì che ha citato prima Roberto, cioè tu accendevi, regolavi e dove, cos'è che ti appariva in televisione? Su le 300 TV private che c'erano all'epoca, quelle pubblicità lì, esatto. E quindi io provo il proiettore, appare a tutto schermo mentre regolavo l'immagine un culo enorme di una gigantesco proprio 2 metri per 1,5 metri. E mia figlia era piccola, mi ricordo che io ero lì che regolavo sto coso qua con sto culo gigante eccetera, e a un certo punto sento niek, mia figlia che si era alzata perché era piccolina, quindi si era svegliata, arriva e mi guarda, papà, e io gira, cosa c'è? Ci scappa la pipì, va bene, porto in bagno. Che credo scena, che imbarazzante, non ho capito bene cos'era, però era quasi paragonabile alla scena di Fantozzi, togliti le mutande, togliti, esatto, le mutande. Siamo arrivato lì anch'io alla Fantozzi proprio. Vabbè, dai, vai Roberto. Vabbè, questo è quello che mi ricordo così, al volo. Ma guarda, sinceramente, grossi imbarazzi dal punto di vista di pornografia, dal punto di vista personale più d'uno, cioè, ma dal punto di vista pornografia ti posso dire, da ragazzino, quando alle due di notte ero in sala, anche lì, ah no, aspetta, ce n'è una. Aspetta. Ce n'è una, ed ero più grande però. Eravamo, senza dire esattamente dove, tu sai che io sono un ex militare e ho fatto l'accademia. Eravamo al primo anno dove esiste una sala televisione, e era capito, stavamo vedendo, non mi ricordo, un film porno. Eravamo tipo 50 tutti a vedere il film porno. All'improvviso arriva, esiste una cosa, l'ufficiale di guardia, no? Entra dentro, allora al volo cambia canale. E ovviamente cambi canale e becchi quello che becchi, non è che puoi sapere. Adesso era anche peggio. Che cavolo. Sì, appunto. No, che non peggio. Abbiamo messo, non so, una cosa religiosa. Su... Esatto. Non so. Quello era di Fantozzi, uguale. Guarda la televisione, vede, non so, che cavolo stava vedendo. Guarda noi, vede che la sala era piena in ogni ordine di posti, gente in piedi. E ci dice, ma chi volete prendere per il culo? Esatto, non ci vede nessuno. Se n'è andato. Quello è stato più che altro divertente, diciamo. A me è capitato diverse cose, devo dire la verità. Ma la prima cosa è stata che io sono uscito bellamente da ragazzino a 14 anni, sono uscito bellamente dal bagno con la rivista lasciata aperta lì, così. In bagno, aperto. E quindi tempo 5 minuti comincio a sentire mia madre che comincia a biastimare. Ciabatte che volano. Volano. Cos'è questa roba? Queste porcherie. Io perché, capito? Cioè, nel senso, vabbè, non spiego ulteriormente, però insomma, diciamo che a un certo punto ho detto a posto, cioè, insomma, sono proprio dimenticato della cosa, capito? Quindi, cioè, e questo devo dire che è successo più di una volta. Ma la cosa bella era, ritornando un po' a quello che diceva Roberto prima, al fatto di questi programmi notturni, che stavo proprio, cioè, ero ipnotizzato da questa cosa che stavo vedendo. E tipo alle 2:30 di notte entra mio padre, ma ha fatto proprio tipo, sapete, allora io c'avevo un televisore della Telefunken, che i vecchi televisori, quelli della Telefunken, c'avevano il pulsante così, quello per spegnere, no? Quindi tu, gigante. Quindi tu gli davi una manata, ci andavi sul sicuro, capito? Cioè, nel senso, pa! E niente, invece non si spegneva sto televisore, capito? Quindi, alla fine, e mio padre è rimasto là, ha guardato, si è girato, se n'è andato chiudendo la porta. Per me è stato peggio che se mi avesse strillato, mi avesse detto: cosa fai, cos'è che guardi, capito? Cosa c'è? Cioè, questo senso di gelo che mi è rimasto dentro, ho spento e mi sono andato a dormire. Penso che non mi sono fatto vedere per 2 giorni, tipo una cosa. E vabbè, poi ce ne sarebbero tante altre piccole stupidaggini, tipo mi ricordo gli indirizzi internet, secondo me sono fatali, quelli sono quando le prime esperienze che c'hai su internet, e quando insomma poi rimanevano memorizzate le cose. Mi ricordo che stavamo a fare una ricerca con una tizia, mi facevo: aspetta, cerco sta cosa, come digita la prima riga, e c'era tutta una schiera di Vabbè, allora è capitato a me facendo, cioè il contrario, nel senso che io facevo assistenza informatica, informatica, e facendo assistenza dai clienti me ne ricordo alcune tremende. Uno, ci ho trovato dentro film porno su lui, cioè il mio vicino. Questa no, allora no, non dico nomi, non faccio nomi, ma ci mancherebbe altro, certo. No, nel senso che non dico, il mio vicino di casa era un settantenne in pensione. Questo proprio, tu non avresti mai detto niente su sto tizio qua, proprio lui e la moglie, due vecchietti col cagnolino eccetera, e aveva il computer, ma ti parlo di, saranno 15 anni fa, 20 anni fa, aveva ancora il desktop, no, quelli bianchi assemblati, e era da riparare, da sistemare, adesso non mi ricordo cosa avesse da sistemare. Comunque me l'ha portato perché sapeva che facevo questo lavoro, e come vicino di casa mi aveva chiesto come fa. Io sì, non figuro, no, perché i dati che c'ho dentro sono importanti, mi raccomando. Io sì sì, non c'è problema, facciamo il backup, salviamo tutto, non perde niente, non si preoccupi. E inizio a recuperare questi dati, e a un certo punto lancio Windows per me. Vedo già dalle preview delle robe strane. A un certo punto vedo proprio dei film porno anni 70. Apro per caso, giusto per curiosità, no? Giustamente, vedete, questi cuori, cade l'occhio, cade il dito. Era lui da giovane, con la moglie, dai, attore di film porno. Grande, io gli avrei, ci sono rimasto così. Gli avrei stretto la mano, coi guanti, ma gli avrei stretto la mano. Porca miseria, pure la moglie. La moglie più altre donne, cioè proprio, sei tipo film porno, so. Ed era lui, si vedeva. Era lui. Vabbè, d'altronde, ma qualcuno li deve aver fatti, Stephen porno. Cioè, questo mio vicino di casa negli anni 70 aveva fatto tipo con la moglie, che poi era ancora sua moglie, quindi erano due vecchietti, e beh, pure. Signor, quanti ne hai visti, Vabbè. No, io invece onestamente non ho nessun caso di robe strane, devo dire la verità, però volevo raccontare invece una cosa alternativa, ma è sul filo di quello che avete appena detto voi, che in realtà è quello che è accaduto al mio capo, tanto lui lo sa benissimo, se mi sta anche sentendo dubito, però lui lo sa benissimo. Io vado a sistemare il suo computer, ho preso qualche virus, qualcosa, sul desktop appaiono delle icone esplicitissime, no? Che dove tu ci clicchi e vai direttamente sul sito web a vedere quelle robe lì, no? Le cancelli e dopo due secondi riappaiono, non c'era verso di liberarsene, no? Io non so cosa è successo, io non sono mai andato a vedere niente di questa roba. Ma è un virus. È un virus. Gli hackeri. A chi vogliamo fa? Ma no, ti assicuro, no, non sono mai andato a vedere niente di sta roba, mi appaiono da sole sullo schermo, io le tolgo, ma riappaio. Magia. E niente di così. Mentre invece l'altra cosa che invece abbiamo fatto, questa è stata una cattiveria che abbiamo fatto, ma questa è stata proprio c'era un tizio lì in ufficio, un tizio che comunque era tanto lui, forse lui non lo saprà, non sa neanche di che sia successa sta roba, forse non ho idea, però era un cretino proprio, ed era un dirigente, una persona, un dirigente che tu entravi in rete, andavi nel suo computer, aveva il C condiviso, e questo qua trattava tutti i dati dell'azienda importantissimi, eccetera, cioè tutto condiviso, quello che potevi, tutti potevano vedere tutto, e ci stava sui coglioni. Allora un giorno abbiamo detto, poi gli facciamo una bella cartella con scritto porno e gli mettiamo i peggiori porno del pianeta, animali, frigoriferi, cioè, robe, qualsiasi cosa, le cose più brutte che abbiamo trovato, i famosi giro. Frigoriferi porno. Gli abbiamo infilati dentro e abbiamo detto, questi quando poi succederà che farà il PC passa in mano alla moglie, succede qualcosa, chissà che casino salta fuori. Poi in realtà il tizio è andato via dopo poco, non sappiamo più come è andata a finire, però intanto noi la roba gliel'abbiamo piazzata dentro. Poi magari dice, cazzo, beh, interessante, oppure magari hai fatto un favore, dice. No, ma sta cosa dell'assistenza tecnica, anche un mio amico che faceva appunto assistenze tecniche degli anni 90, insomma negli anni 2000 più che altro, ma sì, devo dire che insomma è molto frequente, credo che sia molto frequente per tutti, dai. Sì, sì. Pensa che lui al negozio ancora mi ricordo Uniware si chiamava, e c'aveva praticamente nella parte insomma principale dove loro, diciamo vicino al retro dove c'era il laboratorio, c'era ancora una parte che era comunque nel negozio principale, c'era una lavagna gigantesca dove loro segnavano, scrivevano le cose più becere che capitava ovviamente, o frasi dette dal cliente, sai, quelle cose tipo il computer non fa niente, cioè in che senso il computer non fa niente? Niente, l'ho acceso, ci sono delle icone, ma il computer non fa niente, cioè nel senso era il computer che doveva fare le cose, capito? Un po' come quando dicevamo che Gig Robot era, anzi no, Goldrick era stato, lo facevano col computer, no? Era il computer, certo. Che, insomma, questa fantasia un po', però il problema è che negli anni 70 barra tra virgolette al limite anni 80 era pure concepibile, ma negli anni 90-2000 insomma un po' di meno. Davide, i programmi televisivi vedo che tu ti sei segnato. Sì, nel senso che non ci dimentichiamo che negli anni 80, ma l'abbiamo già più o meno detto varie volte nei discorsi che abbiamo fatto prima, c'erano dei momenti nei programmi televisivi dove si arrivava a delle soglie, erano trasmissioni normali, anche parliamo di Colpo Grosso, la Bustarella, sì, certo. Umberto, cioè, Smaila, mitico, e eravamo ad orari normali, però già eravamo molto non proprio normali, diciamo, facciamo no, seconda anche serata. Se, anche se io però mi ricordo una cosa, che negli anni 70, primi anni 80, c'era delle volte che beccavi nudi o cose nella TV normale, anche sulla questo, Rai. Questo, quello che ho detto io all'inizio, cioè. Esatto. Cioè, capitava poi. A orari normali, cioè sì, orari. Sì, sulla Rai un po' meno, almeno fino a certi anni. Su altre TV non scrause. Per esempio mi ricordo che Enzo Tortora faceva una trasmissione nel breve periodo che andò sulla TV privata, dove c'era uno spogliarello. Sì, esatto, c'era uno spogliarelli. C'è stato un periodo, si è andati a periodi, c'è stato un periodo in cui alcune cose sono state tollerate negli anni 70. Sì, no, diciamo che anche nella Rai, quando c'erano dei prodotti cinematografici specifici, magari film importanti che comunque c'avevano magari la scena di nudo, non si toccavano, sì, sì. E poi vabbè, c'erano ovviamente quelle quintalate di televendite, adesso la più importante, sì, che ci possiamo ricordare, Maurizio Paradiso, sì, con Magic, sì, America, sì, che sì, vendeva Marilyn Video. Marilyn Video, dove si vendeva, ma intanto dietro alle spalle si vedeva qualche spezzone di roba, magari con qualche pixelatura, forse, ma in generale insomma si vedeva tutto. Tipo quello all'epoca c'erano anche tante Luce Capogrosso, da giovanissima, fu lanciata facendo la pubblicità soprattutto a Milano. Io credo avrà avuto 20-21 anni quando... una cosa folle, mi ricordo ancora. Beh, Maurizia Paradiso in particolare era un personaggio, lei poi alla fine, perché era un po' la Vanna Marchi del porno poi alla fine. Esattamente. Sì. Io mi ricordo che in quel periodo, attratto da Orcella, la vedevamo così tanto spesso, ho detto quasi compro, e continuavo a dire pacchettino, vi arriva un pacchetto anonimo completamente senza... Sì, sì. Sì, sì, è tutto in discrezione totale, vabbè, provo. Che mi ha fatto ricordare, facevano i pacchetti, tipo i bundle. Cioè, tu se compravi 3 film costavano, se compravi 5 film costavano, se compravi 7 film, io probabilmente tutto in pack 4, anonimo, 5. Assolutamente garantito. Era anonimo? Ma magari era anonimo, però arrivava il pacco che io non stavo da un'altra parte, lo prendeva mia madre, dice che c'è dentro il pacco, apri il pacco, poteva essere anonimo quanto te pare, ma insomma, cioè, no, invece nel mio caso lo ordino, pacco anonimo, faccio arrivare CKE per non farlo arrivare a casa, l'ho fatto arrivare al lavoro in pratica, ho detto alla peggio, se arriva loro... È arrivato un bel pacchetto normale, tutto lo scotch intorno con scritto Magic America, anonimo con scritto Magic America, sì, tutto Magic America, video hard, sexy qua, no, sexy, dai, sul serio? Sì, è arrivato così. Ma vaffanculo, quando è arrivato il CKE un attimino mi sentivo lì, ci fu uno scandalo enorme, ma chissà cosa c'è qua dentro. Che quasi tutte queste catene in realtà duplicavano, quindi non erano manco veramente originali. Probabile. Non mi stupisco minimamente. Sì, ma lì è stato il famoso periodo della pirateria delle videocassette, che è durato parecchio. Vi ricordate che poi c'è stato il periodo in cui mettevano la pubblicità prima delle videocassette con scritto originale, se lo compri, se fai un delitto. Delitto, esatto, sì, sembravi un assassino. Tra l'altro, questo non c'entra niente col porno, ma mi sa che l'avevo già raccontato, e mi ricordo che c'era una nostra segretaria che lavorava da noi, che c'aveva un parente che lavorava a una di queste emittenti private romane, e lei mi dice: guarda, stanno a cambiare tutto, stanno a buttare tutti i vecchi nastri, ci stanno le cassette di Star Trek che loro utilizzavano per trasmettere, le vuoi? Dice: sì sì, come, non le voglio, però mi raccomando, poi non le buttare perché è un peccato, come no, praticamente le cassette erano tutte copiate, cioè erano proprio tutte quelle copiate, con le scritte a mano, cioè manemittente televisiva. Era così, era un periodo così. Mi ricordo, io a quell'epoca facevo assistenza per la Commodore, lavoravo per la Digimail, che era uno dei più grossi rivenditori a Milano di materiale Commodore, professionale anche, e facevo assistenza nelle televisioni, sia private che quelle grosse, perché gli Amiga a livello televisivo all'epoca lo usavano praticamente tutti nelle regie, ce l'avevano in Finimes, ce l'avevano in Rai, mi ricordo giravo perché facendo assistenza portavo i pezzi di ricambio eccetera, e mi ricordo che andai in un'azienda di RO, di cui adesso non mi ricordo più il nome, in provincia di Milano, che produceva videocassette e utilizzava per fare i titoli delle videocassette, aveva un sistema Amiga con titolatore e tutto quanto eccetera, mi mandarono lì perché c'era appunto da fare assistenza, dovevo cambiare una scheda, un Gellock se non mi ricordo male, e io arrivo in questa azienda qua e praticamente ho scoperto che questi facevano un sacco di soldi, perché poi lì c'era il proprietario che ha iniziato a raccontarmi tutto quello che facevano, prendendo le videocassette originali film vecchi, film porno vecchi, cartoni animati vecchi, ma anche tantissimi film porno di cui erano scaduti i diritti, mi diceva, o qualcosa del genere, o non erano stati rinnovati eccetera, e le riduplicavano e le vendevano come originali, ma partivano da delle senza pagare i diritti. Soprattutto nei cartoni animati usavano l'Amiga per metterci un bordo intorno al video, che lo schermo diventava più piccolo, perché diceva che siccome erano duplicazioni si vedevano gli errori, cioè disturbi intorno nella parte e quindi mettendoci questo bordo si vedeva che la qualità, cioè tu vedevi il cartone animato brutto ma sapevi che la videocassetta era bella perché vedevi il bordo bello, c'è una roba del genere, una cosa di questo tipo. E tantissimi cartoni della Disney e della Looney Tunes vecchissimi li ripubblicavano vendendoli tranquillamente nel circuito delle edicole, delle videoteche, eccetera. Come no, certo. E tantissimo porno vecchio che veniva riduplicato e rivenduto. Infatti mi ricordo che me ne andai via con un paio di cassette omaggio. Ma infatti tutte le cassette che poi alla fine avanzavano a tutto sto smercio finivano nelle edicole. Poi alla fine, sì, lì era il periodo in cui le edicole scoppiavano di videocassette. E loro, mi ricordo, facevano veramente tanti, cioè era un'azienda. Io ragazzi, devo dire la verità, allora, chiudendo il discorso della televisione, c'era anche, io mi ricordo, c'era un programma su Italia 1, credo che era Italia 1, che c'era pure Moana Pozzi che suonava la chitarra sempre tutta nuda, insomma, quindi c'è stato un periodo. Sì, era lo scrondo, l'Arba Fenice. Bravo, con lo scrondo. Con lo scrondo e i gemelli Ruggeri. Ma poi bravo, vedi che alla fine. E poi alla fine, pensando, insomma, la cosa più bieca che abbiamo mai visto dal punto di vista pornografico, a parte le cose inenarrabili, io mi ricordo che una volta un mio amico andò a Porta Portese e venne con sta cassetta. Oh, regà, qui c'è sta cassetta, c'è deve essere la roba da Gagliarda, me l'ha venduta un russo. Mettiamo sta cassetta, c'era praticamente la cassetta, era sta donna nuda incinta che si rompeva delle uova addosso e si spalmava sto, cioè una cosa, ragazzi, di uno schifo indecente. Ma io non riesco neanche a capire chi potesse aver mai immaginato di girare una cosa del genere, insomma. Comunque Francesco in chat ci dice che a me una volta il padre di un amico mi chiamò per poter risolvere un ransomware che aveva beccato su siti sospetti con laptop della moglie. Ma poi sei un coglione, cioè nel senso, io voglio dire, no? Cioè, ma poi col computer di tua moglie, cioè nel senso, fanculo, no? Era disperato perché tempo dopo lei sarebbe ritornata a casa e quindi, insomma, gli doveva risolvere il problema. Non mi dimentico della chiamata, lui praticamente gli ha detto proprio chiaramente: pronto, Francè, dato che, come puoi ben sapere, noi uomini a una certa età abbiamo delle esigenze difficilmente rinunciabili, mi sono trovato a navigare su dei siti a contenuto pornografico, quindi c'è proprio questo, è proprio, c'è un linguaggio, insomma, bello forbito, per tintinnare l'immaginazione. Salutiamo anche Melanie che c'è in chat, gli spogliarelli me li ricordo anche io, Melanie. Si ricordavamo, d'altronde c'erano, cioè, pure se non li volevi vedere, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Simone, c'è la tua parte pregnante, no? No? Sì, prima sì. Però c'è Davide con i sexy shop, perché in effetti collegandosi a Maurizio Paradiso c'era questa cosa dei sexy shop. Ah sì, Magic America, io ci passavo davanti tutti i giorni perché era vicino all'università, dove facevo l'università. Era vicino a Città Studi. Sì, no, ma Magic America era il punto vendita di quella roba lì. Però se ci fate caso, se vi perfettamente locale, c'è stato un boom a un certo punto di questi negozi sexy shop generici, non proprio Magic America, generici. Nella mia città ha cominciato ad apparire come funghi a destra e a manca, e anche a livello. Così, siccome il negozio di sexy shop è sempre una cosa, quando la vedi dici: ah, che cos'è, che porcheria, aiuto, mi ha aperto un sexy shop nel mio quartiere, che brutta roba, diventerà un casino. Invece alla fine aprivano e ci si faceva l'abitudine, e addirittura mi ricordo mia madre che diceva: ah, vai da, non so, tipo, vai da Furtivendolo, ma non quello là, vai quello dopo il sexy, là, vai dopo quello. Cioè, diventava come un punto di riferimento. Pensavo che ti avesse mandato al sexy shop a comprare qualcosa. No, era per dire, si sapeva che c'era, ci si faceva l'abitudine, ed era alla fine diventava un negozio come un altro, insomma, che poi lo è, in effetti, no? Però in quegli anni. Ma non ci sono più adesso, anche quelli sono spariti, giusto? Ah, sì, pochi. Ci sono, ma pochi. Sono magari. Non così più diffusi. Io ricordo proprio quel periodo lì, ne apparivano uno dietro l'altro. Perché si compra online anche quella roba, ma guardate che soprattutto noi maschietti non capiamo bene che alcuni, come posso dire, ammennicoli hanno una forte diffusione, molto più di quello che si pensa. Ma no, sì, voglia, sì. Questo, gli ammennicoli. Sugli ammennicoli avrei un aneddoto che si collega a quello che avevamo detto prima. Vai, se si vuole raccontare, raccontalo. Sì, era l'avevo anche raccontato a un ragazzo di notte, secondo me. Sempre sulle figure di... Diciamo che c'è stato un periodo in cui per non mi ricordo bene quale motivo, forse anche perché non mi era mai capitato di poter fare qualcosa con quelle vere, mi è stata regalata una roba di gomma a forma, con la sua forma, e me l'ho regalata e io dico, che cacchio, e l'avevo portata in ufficio, mi ricordo, e l'avevo attaccata con un filo al muro e che era appesa in mezzo all'ufficio, cioè noi avevamo quella roba lì appesa in mezzo all'ufficio, è stata lì per un po', e un giorno noi avevamo dei colleghi che venivano da Cosenza e stavano lì una settimana, poi partivano e andavano a casa. Il giorno prima di partire uscivano dall'albergo, venivano lì in ufficio e avevano la valigia con tutta la roba. E c'era lì la valigia aperta perché tizi stavano sistemando ancora della roba. E a un certo punto io e mio amico abbiamo detto: idea brillante, ficchiamogliela nella valigia, così quando poi arriva a casa trova la sorpresa. Ma con lo stagno, abbiamo preso un sacco di stagno, abbiamo fatto una roba a forma di pistola circa, no? E gliel'abbiamo ficcata dentro, nascosta sotto i vestiti, così ha detto, così al metal detector si ferma, vedono una roba che sembra un'arma, la aprono e ci trovano dentro quella roba lì, vediamo che figura ci fa. E purtroppo niente, è passata tranquilla, potevamo mettergli dietro anche un fucile a canne mozze, passava tranquillo a linate. Ecco, tipo questo praticamente. Esatto, sta passando una piccola... moto sta passando. Vabbè, pardon. Tutta radiofonia questa. E invece la scoprì sua madre a casa, che gli sdisfò la valigia perché poi gli telefona e gli dice: ma oh, qualcosa, non hai trovato niente di strano? Fa: io no, mia madre sì, che mi ha detto che cos'è sta roba qua. E vabbè, è stata una figura così che abbiamo fatto. Vabbè, voi chiedete agli addetti dell'aeroporto quando controllano le valigie cosa molto spesso trovano. Immagino. Vabbè, ma c'è amici addetti all'aeroporto. No, vabbè, però ci sta, voglio dire, ci sta, ragazzi. Ma alla fine la privacy, la gente fa quello che cazzo gli pare. Letteralmente, sì. Esatto. Io quando penso agli ammenicoli mi viene in mente sempre il film Top Secret con quando gli portano l'incursore anale in prigione in omaggio. Lo ricordate? Sì, lo è sotto la branda direttamente. Hai provato con questo? Alla bersagliera. Vabbè, comunque io introduco l'ultimo argomento con questa qui. Moana Pozzi, L'ultima notte. Tra l'altro, una cosa interessante è che praticamente questo video che sta su YouTube è un video sicuramente televisivo. Siccome che quando ho cliccato su questo video suggerito da Davide Gatti ero con un altro account, è un video che non ti fa vedere YouTube se tu sei minorenne, e quindi mi chiedeva la dimostrazione, dovevo scannerizzare addirittura il documento per vedere, sai, vabbè, siamo veramente alla frutta. E insomma, è sicuramente sexy come video, per un video insomma che poteva essere sexy rispetto a quello che vediamo noi, ed è un video del 1989, e ovviamente, come abbiamo detto, appunto, chi canta è Mona Pozzi. Allora, diciamo, forse faccio questo ultimo discorso finale, anche se io vedo gente che si scollega, non so se è normale. Se ci siete? Ci siamo, sì, ci siamo. No, okay. Sei tu che non ti si vede. Esatto. Un'altra volta? Sì. Vabbè, anche sti cavoli, cioè, nel senso, volendo, adesso ci riprovo. No, pensavamo che ti fossi scollegato tu, a dire la verità. Esatto. Però ti sentiamo. Ok, allora, soltanto... Sto provando a riaccendere la telecamera, che non so perché non si riaccende più. Ah, ok. Allora, la pornografia in Italia ha avuto un'importanza, penso, come tantissimi altri posti, però chiaramente noi parliamo un po' della realtà che conosciamo, perché soprattutto negli anni 70, che è stato un periodo comunque di rianalisi, insomma, della società stessa, no? Di rifiuto di determinati meccanismi, di determinati concetti, e di rivoluzioni sociali anche, no? Dal punto di vista comportamentale, sociologico, anche interpersonale, l'emancipazione della donna e tutta una serie di situazioni, quindi anche nei confronti della sessualità, no? Poi il porno, in qualche maniera, con quelle icone fondamentali che hanno poi trasceso, no, la pornografia stessa, cioè sono diventate dei fenomeni di costume, perché appunto abbiamo detto Moana e Cicciolina, poi alla fine hanno fatto dischi, hanno fatto televisione, hanno fatto nel caso di Cicciolina c'è stata la politica con il Partito Radicale. Quindi questo ha aumentato a far conoscere di più anche un po' il fenomeno, no? In qualche maniera, fenomeno che ha amplificato, diciamo, anche accelerato anche alcuni processi, no? Perché tramite la pornografia l'Italia si riscopriva capace di fare cose che in realtà non si pensavano che si potessero fare, no? che erano peccato, che erano sbagliate, che erano tutto il resto. Quindi insomma c'è questa nuova conoscenza, questo nuovo rapporto con la sessualità che era veramente che è stata comunque una grande rivoluzione. In particolare tra le due icone appunto sono Mona Pozzi e Ilona Staller, quindi Cicciolina. In particolare, secondo me, la migliore è stata Moana, ma questa è una mia considerazione personale, ma al di là della bellezza, del fatto che comunque quando ero ragazzino ero innamorato di Moana, ma proprio perché comunque scoprendo anche un po' il personaggio, le interviste, leggendo anche molti articoli e comunque in particolare su YouTube potete trovare una intervista fatta da Pippo Baudo, dove lei risponde in maniera molto sagace e anche ironica a tutte le donne che gli fanno delle domande, che alla fine è forse la cosa un po' più complicata. Mona Pozzi era una persona che una donna che veniva da una famiglia molto religiosa, aveva sicuramente una preparazione di base molto elevata, era una persona di grande cultura, ma soprattutto di grande consapevolezza, e rispondeva sempre in maniera pacata e intelligente, mai banale, e questa era una cosa che mi è sempre piaciuta. Tra le varie domande che lei ricevette in quella specifica intervista, che avrei voluto anche far ascoltare, ma magari non ci aveva tanto senso, se è casomai metto nelle note dell'episodio il link, gli si domanda, cioè, tu come ti vedi tra tanti anni, quando sarai vecchia, e lei dice: io fra qualche anno cercherò, fino a che mi è possibile, di essere sempre piacente, cioè nel senso di continuare ad essere bella quanto mi è possibile, poi più in là non mi vedo, cioè nel senso, lei comunque, nel senso, da vecchia non ci si vedeva, no? E tra l'altro poi questa cosa un po' va in coincidenza col fatto che infatti lei poi vecchia non c'è diventata, perché Mona Pozzi è morta abbastanza giovane. E poi, con vabbè, una teoria del complotto allegata, esatto, come sempre, sono sempre dentro. Beh, poi in realtà su Mona Pozzi in particolare c'era tutto un catalogo, perché c'era il fatto che in realtà non è morta, o il fatto che è morta di AIDS e non di cancro, e tutta una serie di cose che sono tutte collaterali anche al fatto che lei comunque alla fine faceva pornografia, e quindi sparlare in un certo tipo di discorso era abbastanza facile. L'altra appunto è Ilona Staller, che sicuramente da un certo punto di vista è stata la più trasgressiva, cioè Ilona Staller faceva cose che Moana probabilmente non faceva, anche grosse esagerazioni, ma era veramente un personaggio di rottura, ed entrambe incredibilmente assolutamente non banali, cioè potevano essere due tossiche che trombavano davanti alla telecamera, alla cinepresa, perché chissà perché. In realtà comunque hanno sempre dato una forte motivazione a quello che facevano, in particolare Ilona Staller appunto con il Partito Radicale, ovviamente in maniera del tutto provocatoria, perché non c'era un intento politico reale, no? Quello di arrivare in Parlamento, anche quello fu un messaggio di rottura di un partito come quello Radicale, che comunque ha attraversato e ha aiutato tantissime trasformazioni culturali e sociali nel nostro paese, fino a che poi ovviamente Pannella si è rincoglionito e poi vabbè, ovviamente adesso non c'è neanche più, quindi esatto. Pace all'anima sua. Non toccatemi Pannella. No, infatti non lo sto toccando. Ha detto solo che sei rincoglionito con l'età. Esatto, ho apprezzato in maniera incredibile tutto quello che è il discorso. Ecco, questi sono due personaggi che secondo me vanno un po' riscoperti. So che su Moana Pozzi, per esempio, c'è stata una serie televisiva fatta da Sky che io non ho mai visto. C'è stato un film, credo, una serie. No, mi sa che era una serie, Moana, sì. Che io non ho mai visto, mi rifiuto di vederla, però prima o poi, forse poi alla fine cederò e magari la guarderò, perché mi avrebbe dato terribilmente fastidio se ovviamente il dito fosse puntato solo ed esclusivamente sull'aspetto della pornostar, piuttosto che quella del fenomeno di costume, anche della pop star da un certo punto di vista, no? Quindi alla fine questa è una cosa un po', non che lei negasse, anzi lei diceva, lei lo faceva perché gli piaceva, no? Poi c'è una famosa domanda sempre, cioè, ma lei quando torna a casa dopo aver lavorato dice come le viene in mente di fare poi l'amore magari con il suo compagno? Dice, infatti non lo faccio perché sono troppo stanca. È grande, insomma, un gran bel personaggio. Ecco, ci tenevo insomma perché... sì, è stato un fenomeno economico, no? Cioè, nel senso, c'erano imprese, c'erano soldi dietro a livello produttivo, a livello di guadagno, c'è stato anche forse anche tanto sfruttamento, quello sicuramente, però comunque in quel periodo in Italia c'è stato anche questo grosso fenomeno di costume di due personaggi che secondo me purtroppo poi non vengono mai tanto ben ricordati proprio diciamo per la loro provenienza, no? Però insomma alla fine ci tenevo insomma a ricordarle. Poi vedo che ci sono anche delle cose scritte in rosso tipo John Holmes, no, come icone che magari non sono l'icone di spessore come Gabriel Pontello. Chi è Gabriel Pontello? Gabriel Pontello è quello di Fix Chen Chen, dai, cacchio. Fix Chen Chen, vabbè, Elio le storie tese, dai. Gabriel Pontello, fotoromanzi, uno famoso dei fotoromanzi, che è un alieno che quando sta per arrivare al dunque dice i fix Chen. Se non lo conosci è male. No, non conosco. Hai un buco culturale notevole. Sì, è vero, ma io sai che recupero poi dopo, quindi. Ok. No, erano nomi che tutti ricordiamo, anche se sono uomini in questo caso, che però sono uomini che ricordano, sono icone fondamentalmente, per un modo o per l'altro, ecco. E tutte queste cose le ho conosciute tramite gli Elio e le storie tese. Esatto. Tutto tramite loro, proprio l'ho vissuto di riflesso. E diciamo. Loro le hanno fatte diventare ancora più icone di quanto non lo fossero. Sì. Poi c'è Roberto, per esempio, qua ci ricorda Riccardo Schicchi, che in effetti l'ho citato anche io prima. C'era un mio amico appunto che lavorava in un locale, ma lui ci ha fatto un impero su sta roba, una grande impresa. Eva Enger ovviamente, che citata più volte, che anche lei che era bulgara o ungherese, che cos'era? Sì, ungherese. Che era, diciamo che Schicchi soprattutto, ma molti pescavano tra virgolette in Ungheria. Sì. L'Est Europa è sempre stata la miniera delle... Sì, infatti ci sarebbe da raccontare anche lì delle situazioni. Però poi Eva Enger è diventata anche la moglie di Schicchi, se non sbaglio. Sì. Gio D'Amato, un grande autore, un grande regista. Sì. Poi c'è Salieri, anche egli regista e produttore. Salieri è particolare perché faceva. Allora, Gio D'Amato era quello che faceva pure i film horror, no? C'è pure un. Abbiamo partecipato anche a un meraviglioso festival di Gio D'Amato con il mio caro amico Michele Salvezza. E Salieri era quello che faceva i film porno con tutta la fotografia tutta curata, le luci di dettaglio, quindi insomma alla fine era uno che ci perdeva tempo, inquadrature tutte un po' per sbiego, però sì, insomma tutta gente che cercava di dare una particolarità quando in un momento in cui poi la pornografia oramai era già in overabbondanza, insomma, diciamo, cioè cominciava ad esserci talmente tanta di quella roba che alla fine ti dovevi un po'... Vabbè, adesso ancora di più. Sì. Ron Jeremy, che non so chi sia, Roberto. Quindi Ron Jeremy è quello molto famoso, un po' grasso e ricciolone, che di recente credo sia anche finito in galera per stupro, tra l'altro. Però è molto famoso, se vedi qualche immagine lo riconosci subito. Era quello col faccione enorme e i riccioli. Poi ovviamente Rocco Siffredi, ne abbiamo parlato tanto, che in realtà si chiama Roccotano. Rocco Siffredi è stato forse un'altra icona, perché un'altra persona comunque di grande intelligenza, che ha saputo anche gestire la sua immagine, forse rispetto alle due icone femminili lui ci ha avuto questa cosa di aver saputo gestire la sua immagine, anche buttandola sull'ironico, esatto. Anche buttandola sull'ironico con la patatina, assolutamente sempre, ma questa è una simpatico. Cosa amica Chips, oltretutto è qua di Brescia, Montichiari l'azienda, quella che l'ha preso come testimonial, diciamo. Esatto. Franco Trentalance è uno forse dei più prolifici, credo abbia fatto migliaia di apparizioni, è uno chiaramente dei più noti. Poi c'è Linda Lovelace, che è gola profonda, anche qui ci sarebbe tutta una storia, perché lei poi racconterà di aver fatto forse il più famoso film pornografico esistente, che è Gola Profonda, sotto l'influsso di droga, cioè di essere stata drogata e convinta a fare il film. Infatti farà delle denunce poi per questa cosa, e anche la trama del film Gola Profonda è molto divertente. Infatti lei raggiunge, come possiamo dire, il piacere non in modo ortodosso ma attraverso l'ugola, e potete immaginare in che modo. Ho voluto citare Walter Midolo, e questo è un aneddoto più che altro perché lui fa il ripugnante, quindi in tutti i film dove ci deve essere uno vecchio calvo un po' ripugnante, cattivo, lui era il protagonista, il prescelto e ovviamente il porno divo ripugnante, esatto, la bellissima Silvia Kristen in Emmanuel, quindi che insomma credo che in qualche modo abbiamo visto tutti, e questo nella parte dei film. Vabbè, Silvia Kristen comunque era abbastanza soft hard, se vogliamo, non era ovviamente un film vero e proprio hard. Sì, poi vedo che qua avete scritto anche un elenco relativo al porno soft, ma in realtà col porno non c'aveva niente a che fare, era più la commedia erotica all'italiana. Che sicuramente ci ha regalato anche lì bei momenti con Barbara Boucher, Gloria Guida, ragazzi. Edwidge Fenech l'avete messa per quarta, ragazzi. Ma Edwidge Fenech è la donna più bella del mondo dopo dell'universo. No, dopo come si chiama? Oddio, Ornella Muti, cioè secondo me ormai. Beh, anche Eleonora Giorgi volendo. Sì, sì, però Ornella Muti, poi Edwidge Fenech, Anna Maria Rizzoli, non so chi, non me la ricordo. Chi è sta Zeudi Arava? Zeudi Araya è una molto famosa, soprattutto per un film che ha fatto storia, in cui appare senza abiti addosso. Poi te la facciamo vedere. Va bene, ok. Tini Cansino, Leonora Fani. Sì, quella era dei tempi di Drive-In, giusto? Sì, sì, sì, però sì, già faceva roba, cioè, ha fatto i film con Squallor, cioè, ha fatto di roba, sì, insomma. Quelli Squallor, non ho pensato. Sì, Arrapao, Arrapao, sì, sì. Vabbè, ve l'ho visto di Oddio recente, Serena Grandi, sì, ragazzi, Carmen Russo, Pamela Prati, Carmen Russo, Serena Grandi, tutta la, la filmografia italiana di serie B, i nostri B-movie, quelli che però anche quelli sono stati utili a una certa età per sì, sì, ma poi soprattutto ormai sono calda anche quelle, come opere, certo, alcune, alcune cose immotivatamente, altre perché comunque in effetti quel cliché funzionava bene, come vi considerate in quel periodo ne facevano 7-8 all'anno dei film così, cioè andavano proprio a catena di montaggio, quindi immaginate quanti soldi facevano circolare queste cose, perché poi c'era un periodo c'era solo quello al cinema, quindi sì, ma poi non solo, sono diventati anche dei long seller in televisione quando c'è stato il boom delle TV private. Ricordate il periodo in televisione, continuavano a mandarli e ogni anno lo vedevi 4-5 volte lo stesso film, cioè Vieni avanti cretino, quante volte l'avete visto in TV? Vieni avanti cretino. Sì, ma anche la dottoressa al mare, la professoressa al mare, tutte quelle Giovannona Coscia Lunga. Vieni avanti cretino, vi ricordo, di cui ho scritto un articolo sul sito di Archeologia Informatica, c'era una giovanissima Moana Pozzi insieme a Lino Banfi che recitava nella scena del famoso computer super tecnologico. Ah, bello, bello, sì, sì, sì. Abbiamo fatto un video su archeologia informatica. Sì, un articolo, non un video, era un articolo sul sito. Ah, dovevamo farci il video e non ce l'abbiamo fatto, giusto? Ah, giusto, bravo, sì. Ma è per colpa di qualcuno, non so bene. È colpa mia, sempre, logico. Vabbè, la prostituzione, non so che vuoi dire. No, la prostituzione era solo un cenno, perché una curiosità più che altro. La prostituzione esiste da sempre, eccetera, eccetera. Però anche la pornografia, pensa, incredibile. Sì, in quel periodo particolare, parlo di anni 80 e 70-80, io vivevo davanti a una strada molto grande a Milano, chi è di Milano la conosce, che è Viale Fulvio Testi o Viale Zara. Sì, e lì è proprio la zona, proprio e c'erano tantissime. Sì, ma la Viale Fulvio Testi, Viale Zara era il, cioè tu devi dire vado a Viale Zara, vado cioè, Viale Zara, invece c'era il Puttan Tour, esatto, che ci abitavo di fronte negli anni, e qui parliamo degli anni 70, erano lì davanti a casa mia, e io da bambino chiedevo a mia mamma: ma chi sono quelli lì? Sono delle signorine che lavorano lì la sera. Sì, eccetera, sai, eccetera. L'hai già raccontata questa? L'avevo già raccontata probabilmente a runtime di notte. E niente, era curioso sapere che comunque queste persone, che la prostituzione era un costume abbastanza comune, dove non ci faceva quasi più caso, era davanti agli occhi di tutti, e addirittura certe cominciavano ad avere anche relazioni con queste persone. Ah, ciao, tutto bene stasera? Sì, sì. Cioè, era lì tutti i giorni, tutte le sere, partendo da magari dalle 9 di sera fino a non so che ora, e ti capitava delle volte di addirittura avere anche delle interazioni in qualche modo, ed era abbastanza esseri umani, tollerato, certo, senza nessun tipo di problema. Adesso invece è molto un po' più complicato, adesso, se vogliamo, no? Da un certo punto di vista, un po' perché viviamo in tempi oscuri e tristi, dove facciamo finta che il nostro Signore non vuole, insomma. Quindi vabbè, comunque al di là di tutto, diciamo che comunque questo è stato un periodo interessante, vivace, in un periodo in cui era tutto molto frizzante, e noi lo colleghiamo anche al fatto che eravamo giovani, quindi eravamo ragazzini, e questo ovviamente creava il senso del proibito, no? Cioè, proprio il fatto che tu stai a fare una cosa che non si deve fare, che è sbagliata, e questo, esatto, ti fa pruridere, esatto, ti fa venire poi il prurito dentro, capito? Quindi insomma è chiaro. E poi chiaramente magari quelli come noi hanno avuto poi l'opportunità di vedere quello che è stata poi la trasformazione sia tecnica che economica di quello che è il mondo della pornografia, perché come giustamente dice Carlo, oggi la pornografia è ancora un grosso business, ma la qualità complessiva del prodotto, quindi il guadagno diretto sul singolo prodotto, è praticamente abbattuto a zero, perché oggi funzionano le grandi aggregazioni, quindi lo YouTube della pornografia, che chiaramente lavora sui grandi click, no? Cioè, quindi e questo ovviamente anche a discapito di quello che una volta potevamo definire la qualità, ma penso che chi oggi usufruisce della pornografia gli servono quei 5 minuti davanti a quel singolo video per fare quello che gli serve, insomma. Quindi, sì, e poi ai nostri tempi, come su moltissime cose, quando noi eravamo, c'era bisogno, mi viene in mente quello che ha detto Carla per le ricerche sui videogiochi, cioè serviva azione. Se tu volevi vedere qualcosa dovevi alzare il sederino dalla poltrona, uscire di casa, procurarti la rivista, procurarti la videocassetta, procurarti in qualche maniera. Adesso se vai su Google, scrivi super maggiorata, schiacci il tasto e ti appaiono 8 miliardi e mezzo di questo, quello che cerchi. Io non dico se è meglio o peggio, perché sennò entriamo nel solito dibattito con Carlo. Dico che probabilmente il fatto che fosse necessario agire, muoverci, rendeva la cosa un po' più sofferta, ma magari anche se riuscivi a farla. Sì, è proprio perché poi alla fine era comunque quel. Cioè, allora, innanzitutto oggi l'accesso è talmente diretto, no, che non c'è neanche, secondo me, più quel senso de proibito, no, che comunque ci avevi, no? Invece prima dovevi uscire, dovevi andare all'edicoletta, dovevi tornare a casa con le cose nascoste sotto l'ascella. Insomma, c'era tutta una serie di cose che comunque si facevano, e non c'è niente di male sul fatto che ci facevano, come probabilmente non c'è niente di male neanche a chi va oggi su Pornhub a accedere, certo, a quello, però, certo. Però il discorso è alla fine che comunque è, come diciamo, è una trasformazione di un mondo, di una società che faceva le cose diversamente, e come detto, tagliando completamente il discorso sul peggio e meglio, che non ce ne frega neanche niente poi alla fine, comunque fondamentalmente per noi è un buon ricordo, è un bel ricordo, e quindi chiaramente noi la viviamo diversamente da come la possono vivere tanti altri, insomma. Ragazzi, un giro finale di opinioni, così poi andiamo anche a chiudere questa puntata. Davide? Ma no, opinioni particolari sull'argomento direi che abbiamo magari cose già... che ti sono rimaste da dire che non hai detto. No, in questo momento stavo appunto esaminando quello che raccontavamo, che un po' è il discorso che stava facendo Roberto della difficoltà nel recuperare la cosa. Appunto, volevo aggiungere che ricordo che quando i Fioresti di Gallia ci dettero quel Super 8, tremavamo. Ti assicuro che eravamo lì. Anche. Cioè io tremavo, l'avevo messo in tasca, ci guardavamo attorno, avevo paura. Cioè arrivavo a casa e ho detto: mazza, cos'è? Tiriamo il proiettore. Il proiettore l'abbiamo visto in box il video. Io ho portato il proiettore in box in garage e ce lo siamo visti lì, perché in casa non potevi vederlo. Certo. E quando volevo vedermi il mio mezzo metro di video, andavo in box. Con il mio proiettore nascosto, e avevo paura, tremavo. E a proposito, una domanda che volevo fare, che non l'ho scritta, ma adesso la faccio veloce per chiudere: ognuno di voi aveva le riviste, e dove le nascondeva in casa in tempi quando andavano nascoste? No, mica mi ricordo io. Cioè, comunque, dentro avevo fatto una cosa di cartone che avevo incollato nel posto dove vanno i cassetti, però per poterla recuperare devo smontare i cassetti e andare a recuperare la rivista. Ok, io invece nel buco del bass reflex del diffusore, il diffusore di altoparlanti aveva il woofer, il tweeter, e poi c'era un buco che è quello per far uscire l'aria a bass reflex. Io facevo il rotolino, lo infilavo dentro, mettevo il coperchio della cassa davanti e boscavo nel bass reflex. Se mettevano la musica alta e sparava fuori. C'era la sorpresa. Esiste porno dappertutto. No, io, come detto prima, avevo il self-service, nel senso che mi bastava andare nell'azienda di mio padre, che era dietro alla casa, andare negli sgabuzzini degli operai, aprivo e lì c'era proprio l'ampia scelta, proprio potevo, c'era l'edicola in casa. E non dovevo neanche nascondere, perché non erano mie, quindi gli operai. No, io le nascondevo, le infrattavo da qualche parte, sicuramente belle spinte in fondo, ma non architettavo niente di trascendentale. Tanto io me le scordavo al bagno. Le scordavi aperte in bagno. Giustamente. Bene, allora Roberto, invece le tue considerazioni finali, o se c'è qualcosa che magari... No, io voglio dire una cosa adesso, la sessualità è una cosa normale, dobbiamo, secondo me, anche grazie a queste cose anche un po' buffe, divertenti, questi aneddoti, spero che nel nostro paese si, cioè abbiamo visto che insomma è adesso lecito finalmente parlarne e far tutto, anche se adesso divento serio per 10 secondi, mi sembra che da un certo periodo di tempo si stia un po' stiamo avanzando di nuovo delle spinte oscurantiste che un pochino mi danno fastidio. Ti sembra bene? Okay? Ti sembra giusto? È così? Mi sembra malissimo. No, nel senso che... ti sembra, è corretto il fatto che ti sembri, perché non è che ti sembri, è proprio così quello che sta succedendo. Quindi incazziamoci, mandiamo a quel paese quelli che pensano di dirci come dobbiamo vivere, perché ovviamente non si faccia del male a nessuno, perché stiamo veramente tornando indietro su troppe cose. Già. Purtroppo sono assolutamente d'accordo con te. Per quanto strano possa sembrare, però capita, una volta ogni tanto capita. Carlo. Io dico che nel senso quello che vi sembra che stia tornando in realtà è il ritorno di fiamma, ma in realtà stiamo andando avanti, quindi non preoccupatevi, che è normale quando si fa una spinta in avanti, poi c'è un ritorno indietro e poi c'è un ritorno ancora in avanti. Questo è abbastanza vero, anche fisiologico tutto sommato, però è vero che questa è la famosa molla, tiri che fa boing e poi ritorna, ma tutta sta storia sulla famiglia e il no, sì, no al gender, no, tutte è normale, ma è anche normale che se ne discuta, perché si sta aprendo, quindi è logico, stiamo andando avanti, non stiamo andando indietro, secondo me. Fai la tua considerazione finale sulla sapete che lo dico sempre questa. No, io nella considerazione ci stiamo evolvendo moltissimo, e quello che mi colpisce molto, un po' perché sono nell'ambiente della ricerca, della ricerca e sviluppo nell'ambito informatico, lo sapete che lavoro in questo campo, la parte di soprattutto realtà virtuale eccetera, e nell'ambito della pornografia stanno facendo delle cose veramente incredibili, cioè stanno raggiungendo effettivamente, in questi anni si sta avendo a disposizione la possibilità di avere veramente il sesso virtuale, e sarà sempre più diffuso, più presente. Che tristezza. Allora, scusa, la sala ologrammi di Star Trek è una tristezza. Sì, no, la sala ologrammi se la usi per andare a scopare è triste. Dai, cioè, quindi, senso, no, ma lo dicevo prima, una volta si guardava Super 8, una volta il video 8, il cinema. Ma sì, è chiaro. Adesso si arriverà che ti fa il film di Stallone, dove la ventosa in testa e ti fa vedere tutto come se fosse vero. Che cacchio. Esattamente. Vabbè, dai ragazzi, comunque sì, sono d'accordo, in linea massima sono d'accordo. Il problema è che comunque il toccare, l'odorare, è tutta un'altra storia, ragazzi. Il problema è che sei vecchio, quindi. Vabbè, sono vecchio. La vecchiaia ci dà il vantaggio, cioè, di aver visto tante belle cose partendo dal Che boomer che sei, ti piace scopate, cioè, scusa, non va più di moda questa roba, scusa. Vabbè, non c'è problema, vedila così se no vabbè, però se devi dici sei vecchio, ma che vuol dire sei vecchio, scusa, che vecchio, perché il modo di fruire, come diceva non è una questione di non farlo, ovvio che i ragazzi giovani lo faranno e tromberanno e faranno tutto quello che abbiamo fatto, ma me lo auguro, ma lo fanno per di sicuro, il punto è che hanno una fruizione, come ha detto giustamente prima Davide, dai film in bianco e nero, cioè passati dalle foto in bianco e nero, foto a colori, alle videocassette eccetera, adesso si arriva alla realtà virtuale, logico, cioè sono i modi di fruizione del futuro. Questo tu lo dici perché non sei stato a Pompei, perché se tu fossi stato a Pompei non saresti partito dalle foto a colori, a dare foto in bianco dai e disegni. Nero. Esatto. dai disegni, sono stato proprio tante volte. Vabbè ragazzi, dai, comunque 2 ore di trasmissione per questo esordio di stagione interessante, perché alla fine comunque l'argomento era divertente, forse meno complesso rispetto a tanti altri, meno articolata la puntata, ma le cose da dire erano tante, e i ricordi, poi alla fine i ricordi, forse avremmo potuto lasciarci andare ancora di più sui ricordi, perché secondo me ce ne so chissà quanti ancora, ma chi se ne frega, alla fine è stata una puntata divertente, spero che vi sia assolutamente piaciuta. Prima di ringraziare anche i miei commensali qui, a chi tocca la prossima settimana? Se lo ricordo. È passata una stagione, poi che ce lo ricordiamo. Okay. Vabbè, a uno di noi, dai. Vabbè, io voto Carlo. Quindi non... anch'io voto Carlo, che ha un sacco di argomenti. Vabbè, allora tocca a Carlo. Vabbè, dai, non fa niente. Allora, ringrazio e saluto Carlo Santagostino. Ciao Carlo. Ciao, ciao. Ringrazio e saluto, ovviamente, perché poi deve finire sempre in polemica con Carlo, non so se perché. Certo. La trasmissione è divertente, sono stati detto, però lui deve rompere i coglioni. È colpa vostra. Che non capiamo, siamo troppo stupidi, hai ragione, hai ragione. Esatto. Roberto Domaiuolo. Ciao, grazie a tutti. E ovviamente Davide Gatti. E buonasera, grazie a tutti per essere stati qua con noi a farci quattro risate pensando a quando avete usato la mano in un modo diverso da alla sola. Patata, pensiamo noi, Davide. Per prima partita la mano. Vabbè, la mano, ma siamo partiti dalla mano prima, ragazzi, non dite che fingiamo che non sia, insomma. E a Federica torniamo. Molto, molto dopo. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you.